Che spettacolo. Grazie, grazie, grazie a tutti i cowboy dello spazio. Bentornati sulla vostra radio preferita. Ma poi guarda, Radio ZM 1937, zona rossa, tutta per voi. Io ti ho quasi sopravanzato con la mia voce, perché l'entusiasmo che mette addosso Cowboy Bebop è infinito. No, davvero. Uno dei cartoni animati più belli del mondo. Ma è vero, io sai che piango alla fine della serie ogni volta. Anche perché poi finisce male. Ma tra l'altro tu l'hai visto... il film, certo, cioè il film. Assolutamente. Che pensa che io e mio fratello su questa cosa siamo talmente collegati che a Natale ci siamo fatti lo stesso regalo, il film di Cowboy Bebop. Ah, che storia. Cioè abbiamo aperto i pacchetti, ci siamo guardati e mi ha detto: non è possibile. Perché io ringrazio mio fratello Stefano e saluto, dopo lo chiamiamo. Ciao Stefano. Dopo gli telefoniamo. Ciao Stefano. Mi è venuto in mente ora. Ciao Stefano. Madonna, guarda che tramonto. Sono veramente fastidioso. Ciao Stefano. E quindi siamo molto collegati, e nel senso, lui ha 11 anni più di me ed è lui che mi ha passato tutta la cultura cinematografica. C'è un cretino in radio. Attenzione, alle ghette. È un cretino con le ghette. Incredibile, non viene mai, e quando viene dà fastidio. Vero o no? Cioè, vieni pazzesco. Qua a parlare se hai coraggio. Ma oggi pomeriggio già ha parlato, poi ci racconti anche un po' cosa hai detto, perché non abbiamo sentito niente. No, Guglielmo forse l'ho sentito, l'ho sentito. Tornando a mio fratello. Esatto. La cosa bellissima che ha fatto una volta, sempre a Natale, per richiamare quel famoso Natale del doppio regalo, è stato regalarmi il cofanetto di Cowboy Bebop della serie in DVD. No, ma veramente? C'è il cofanetto? Che era, sì. Che era rimasto in cantina durante un allagamento, si è allagato tutto, si è bagnato tutta la scatola di DVD e solo quello è sopravvissuto. Vabbè, tutti e quattro i DVD funzionano. Il bello dei DVD è che se pigliano l'acqua non si rovinano. Esattamente. Questo è effettivamente un loro pregio. Nel frattempo a me sta esplodendo un occhio, mannaggia la mia allergia tipo stagionale. Ieri sì, esatto. In cinque, sempre con le dovute distanze, abbiamo tolto un pezzo di tipo tronco nell'occhio di Guglielmo. No, era un insetto. È stata una scena tipo hostel. Esatto, un moscone molto molto divertente. Va bene, carissimo, mentre a me stavano per venire dei crampi, direi che il mio corpo si sta autodistruggendo. Perché la quarantena fa male anche a me. Ok. E non solo a te, che eri già in pessime condizioni. Pensate ma, ora. Va bene. Allora, distrutto emotivamente, moralmente, fisicamente. Io a stare con questa persona qua di fianco a me non ce la faccio più. Sì, guarda, anche ce perché più. La cosa più brutta è che poi siamo a fianco quando dormiamo. Oh mio Dio, dormiamo insieme. Comunque io vorrei fare un annuncio. Vai. Abbiamo fatto un upgrade in radio, raga. Livelli inimmaginabili. Cioè, in questo momento siamo con i cuffioni. Ma aspetta, incredibile, effettivamente. Incredibile. Radio in cuffia. Però volevo fare una rapida carrellata degli upgrade della radio. Abbiamo messo i tavoli con i passacavo, i cavi passano dentro e non sono più tipo centro sociale merdoso con tutti i cavi nei piedi che fanno polvere, sì, eccetera. Sì, che convivi con la polvere tipo come se fosse l'aria. Dopo una pesantissima... Prenditi il microfono, pezzo di cane. Dopo una lunghissima lotta con delle compagnie internet schifosissime, siamo forse riusciti a raggiungere una stabilità e il tutto era dettato dalla distanza, dalla centralina del cavo telefonico. Ringraziamo Yaffington, dottor Yaffington, per questo servizio. E il tecnico Giancarlo che ci ha aiutato, nonostante tutto, via dai. Riccardo, se mi parli mentre sono in radio, pezzo non riesco merda. A capire senza microfono. O prendi il microfono o te ne vai. No, tu senza microfono parli una lingua sconosciuta. Guglielmo, intratteni che tra il mandinga e il signore che non è capace. Bravo, microfono al signore. Questo, come poter definire una persona che verrà microfonata tra poco? Non puoi parlare con il microfono. Se parli, parli una lingua strana, che è un incrocio tra il capitalismo puro e il mandinga. Va bene? Detto questo, adesso tra poco forse raggiungeremo la forma completa di Zona Rossa, che come Mazinga si compone di tre super pezzi di deficiente. Il primo, con competenze tecniche e umanistiche varie, è Lorenzo. Il secondo è quello che si sta aggiungendo, la cui identità lasceremo per ora ancora ignota. E il terzo è l'idiota qui presente, che fornisce gambe e stupidità al trio fantastico. Perché gambe? Ci sei? Perché nel Mazinga, Mazinga faceva le gambe. Io vedevo i Power Ranger. Mazinga, Power Ranger erano 5, il Mazinga credo che fossero vari pezzi. Ma che fai? Dinosauro, Mazinga? Andrai senza cuffia. E cosa sentirai? Tanto non sto a lungo. Ma cioè veramente, ma si può che uno si aggiunge e non sta nemmeno a lungo? Che brutta persona è. Allora, canale numero 3. Sei un livello percepibile? Riccardo, ci sei? Riccardo, parla con noi. Prova. Forse è un po' basso. Non entra nel mixer? Devo mangiarlo? Sì, no, sembra forse non entri nel mixer. Prova a mangiare. Sei entrato in un sinistro o in un destro? Adesso va molto meglio, penso. Mi sentite tutti? Cigo, puoi confermare che mi sentite? Ah, ma giusto. Fermi voce tutti. Un po' più corposa, vai. Riccardo. Allora, quel microfono è basso. Più cortosa, allora, per favore, Cigo, Riccardo, potresti confermarmi che entra mi subito nello spirito di Zona Rossa. Lo spirito di Zona Rossa è deficiente, lo sappiamo benissimo, ma soprattutto è casuale, quindi ora si parte. Fatto ridere perché è incredibile. Io appena mi sono alzato mi ha inculato il posto. Questo linguaggio sessista. Questo linguaggio sessista, però, per cortesia. Mi ha fregato il posto, fregato il microfono. Buonasera. Buonasera. Tu non puoi sentire, pezzo di cretino, perché non hai le cuffie. Oh, c'è Cigo. Quindi tu adesso devi parlare con Cigo. Bella Cigo, come stai? Oddio. Inventerò quello che bella bada, bene, tu? Bella bada, bene, tu? Vai. Bella bada, vai. Faccio la voce di Cigo. Aspetta un attimo, Cigo, che qua bisogna fare degli esperimenti, perché sto cretino non c'è. Va benissimo. Comunque si sente, eh? Cigo, stasera chi sta vincendo, Burraco? Chi? Non ho capito, scusami. Chi è che sta vincendo Burraco dai stasera? Cigo, un po' sul pezzo. Non è ancora iniziata la partita, è il dopo cena. Però... Tensione nel prepartita. Come si prepara Cigognini alla partita di Burraco settimanale? Birretta a cena e amaro durante la partita. Ma sei fuori? Cioè, ma scusa, stai cioè, esorti i nostri spettatori e spettatrici a bere? E a drugarsi? Sì, ma se non devono guidare è con responsabilità. Madonna, Cigo. Ma perché, scusa, non si beve quando si guida? No, non si beve quando si guida. Scusa, allora, era un trabocchetto, volevo vedere se eri pronto. Secondo me Cigo segue quell'insegnamento per cui guidi poco che devi bere. Giusto, esatto, Cigo? Esatto. Ma scusa, Cigo, sì, ma ogni tanto sì, devo ammettere che ogni tanto sì. I giovani retini possono confermare che sono, e anche Norberto in realtà, che sono un ottimo tassista. Oddio, la sera. Oddio, che non mi hai detto, oddio, io da piaggio. Norberto, Cigo, ma siete in ritardo con la partita solo perché è in ritardo zona rossa, giusto? Voi attendete un certo momento di zona rossa per cominciare la partita? Diciamo che in realtà dipende tanto anche dall'orario in cui si cena. Ah, perché si cena tutti insieme e non so quando preparano i miei. Ah, questa onestà non era richiesta, però va bene, d'accordo. Ma quindi io mai richiesta l'onestà in zona rossa, non l'avete ancora ascoltatori, capito. Ascoltatori e quindi onesti. Sì, però Cigo, quando parliamo noi devi stare zitto tu e noi cerchiamo di stare zitti quando parli tu, sennò non si capisce. Chiedo scusa, non sentivo. Continua a rispondere mentre non ho finito di parlare. Vai tranquillo, non c'è problema. Vai, proviamo. Quindi, Cigo, puoi interrompermi quando vuoi. Facciamo questo gioco, no, questa cosa è tristissima. Facciamo una parola a testa. No. Questo è un gioco, no, questo è un gioco molto interessante in cui ci si mette a cerchio in un gruppo che è magari composto da più di tre persone più una nell'etere e si dice una parola a testa per comporre con un senso minimamente logico un discorso. Guglielmo, se ti tieni il telefono vi vicino. Sì, Cigo, ma non la questione sente. È che volevo salutare Cigognini tipo subito perché ha già esaurito la sua quantità di intelligenza da esprimerci. Ma ciao, verrà richiamato fra mezz'ora. Grazie, gentilissimi. Ciao Cigo. Ciao. Buona serata. Ti sento un po' sottotono però, perché c'è Riccardo? Non volevi fare una cosa di gruppo? No, non è vero, non è vero. Ah, quella non cosa vero che ci avevi raccontato l'altro giorno su Riccardo, è vero. Ah, mi spiace, non ci avevamo pensato, Cigo. Ma non mettetemi Cigo, in bocca Cigo, cose che non ho detto, per favore. No, ascolta, aspetta, noi senza consenso non mettiamo in bocca che non ho detto. Niente, esatto. Scusa, e poi io cosa ci devo esatto mettere in bocca cose? Zona rossa diventa subito hot. Red hot, va bene. Non si chiama zona blu apposta. Esatto, caro Cigo, nel frattempo, luci rosse. Nel frattempo che noi cerchiamo di capire come fare a comportarci discretamente meglio, dici un brano musicale che noi mettiamo. Allora, lo dico, ma mi sa che lo dovrò scrivere. Penso perché per il prima testo, che è molto compagno e secondo me è un gruppo che dovremmo iniziare ad ascoltare come compagni. Attenzione. Vai. Enter Shikari. Oddio, gli Enter Shikari, ma sei fuori. Madonna. Li conosci? Li conoscevo, cioè nel senso vai a scavare un po' nel profondo con gli Enter Shikari. Ne sono molto contento. Gandhi Mate Gandhi. Arriva, mente... arriva, l'ho trovata. Ah, non ascoltare gli altri due grande, che poverini sono un po' vecchi. Non ce la che fanno. Meraviglia, che meraviglia, Cigognini. Io avevo capito Gandhi mentre caghi. Però, vabbè. No, è in inglese Gandhi, compagno Gandhi. Ma io oggi ho capito il sesso al posto che il sasso. Stessa beh, cosa. Beh, direi che stiamo molto bene, ragazzi. La comprensione so è fantastica. Due mesi, senso. Inizia a capire male. Inizia a capire male. Secondo me è una cosa che succedeva anche prima. Non è che, cioè, non è che prima non capissi benissimo. Come la povertà c'era anche prima. Non è che il COVID ha portato più poveri. No, l'emergenza ha semplicemente messo in luce di più quanto sei scemo. Esatto. La povertà l'hanno abolita con quelli. Assolutamente. Ah, minchia, è vero, per legge, ragazzi. La storia delle brigate. Per legge. Gli eroi, sì, quei sì, famosi sì, eroi di cui si parla tanto, dai, giusto? Esatto, esatto, esatto, esatto. Comunque, Cigo ha iniziato a fare anche cose intelligenti, ma il tuo brano è pronto, quindi ti salutiamo. Ciao Cigo, grazie, a dopo. A risentirci, compagni. Ciao. Is just to blindly consume to support a failing economy and a faulty system forever and ever until we run out of every resource and have to resort to blowing each other up to ensure our own survival. I don't think we're supposed to sit by idle whilst we continue to use the long outdated system that produces war, poverty, collusion, corruption, ruins our environment and threatens every aspect of our health and does nothing but divide and segregate us. I don't think how much military equipment we're selling to other countries, how many hydrocarbons we're burning, how much much money has been printed and exchanged is a good measure of how healthy our society is. But I do think I can speak for everyone when I say we're sick of this shit. Madonna, gli Enter Shikari. Ma qua sta girando tutto, sta girando tutto! C'è tipo una balla di fieno che gira, sono rimasto completamente solo. Non dire cazzate. Come qua. Sempre. Scemo di merda. Perché mi abbandonano sempre. Ti abbandonano sempre. Era bella sta canzone. Oh, finalmente è tornato Riccardo con un bel paio di cuffiazze direttamente dagli anni Ottanta tenute su con lo scotch. Esatto. Spero che ti lasciano le bricioline di gomma negli orecchi, così sarei molto male. Va bene, allora vi possiamo annunciare che quest'oggi dobbiamo ancora verificare il collegamento con il nostro antropologo preferito e andremo tosto a farlo. Sì, primo. Sì, diciamo di sì, dai. Secondo. Gamba tesa su Stide così. Esatto. Vuoi dire qualcosa? Qualcosa. Perfetto. Perfetto. Poi l'idea della serata era dire qualcosa tipo provare a sentire qualcuno che fa sport, sport di esatto. Centro sociale. E quindi potremmo, sì, vabbè, qua c'è il limone duro, cioè, mentre uno al telefono. Io certo, odio provare il sentimento dell'invidia, ma ogni tanto mi scatta proprio. Tanto con l'unica persona degna di nota nella vostra coppia, cioè Rachele. Cioè poi non pensate alla sensibilità degli altri, no, non indagate sul trascorso degli altri, cosa stanno passando. Come si comunque sente. È incredibile come riescano a limonare rispettando le distanze di sicurezza. Stai parlando di qualcuno che fa sport? Esatto, in questo centro sociale, mentre mi arrivano dei messaggi un po' agghiaccianti, vabbè. Agghiacciante, vabbè, insomma, dai, tagliamo la testa al toro. E mentre chiameremo lui, che solo ci può dare informazioni sull'acciaieria. Attenzione, che cos'è l'acciaieria? Non si sa chi è, vabbè, mentre lo parleremo con lui, io farò delle cose al telefono, perché così verifichiamo i prossimi invitati. Secondo me non ci risponde. Secondo me Riccardo si bagna. Tanto, tanto adesso lo ricatterò pesantemente. Se ci risponde al telefono, ma lo farà. Lo raccatterò. Riccardo, si confonde già i nomi. Tieni alta l'attenzione. Tengo alta l'attenzione. Tan. Madonna santa. Perché abbiamo chiesto che venisse in trasmissione? Tu, è tutta colpa tua. Sempre un problema. Io continuavo a dire che non era una buona idea. Sempre un problema. Sì, poi appena arriva Andrea, io me ne vado perché. Chi è Andrea? Andrea. Ascolta, tutta sta confidenza puoi anche portatela. Cioè, non risponde veramente al telefono questo qua. Non ci posso credere. Ma cosa vuoi fare? Se lo chiamo io, secondo me risponde. Quello è poco ma sicuro. Che Guglielmo non ti risponde. No, non per Guglielmo, ma perché secondo me sono innamorati loro due. Certo. Anche. C'è un ottimo rapporto. Anche. Adesso gli chiederemo quali foto mi manda. Ma tu le giri su altri gruppi? No, per fortuna. Ah, ecco, perché sennò erano Poi, e poi lì è un ragazzo veramente hot. Rischia subito di essere. Come faccio? Se chiamo io, posso attaccare la tua cosa? Sì, no, semplicemente io devo chiudere questa telefonata. Che infatti. Comunque, intanto intrattengo il pubblico a casa per spiegare benissimo questa cosa. Che finalmente Radio ZM smette di prendersi a pugni in faccia con lo Zammi Pop Lab per un singolo cavo. Questo singolo cavo è stato finalmente acquistato. Si è fatta la pace. Si è fatta la pace e viva l'amore. La pace, però. Hai ragione. C'era una bellissima scritta su un centro sociale della Brianza che diceva: quando la pace sociale uccide anche te, quando ti chiedono di abbassare i toni, tu alza le mani. La pace sociale. Possiamo scriverlo fuori dalla porta della radio. Ci sta. Facciamo i programmi è lecito che ammazziamo di botte la gente se mettono a urlare. Che poi alla fine è quasi sempre Fergi o qualcuno. Sì, esatto, Fergi o Fergi. Comunque ringraziamo Chico, che è stata la persona risolutiva come sempre, che ci ha dato l'adattatore corretto per infilare queste cuffie nel nostro nuovo fantastico giocattolo. Ma mentre suona il telefono vogliamo parlare degli altri giocattoli? Allora, la cosa più bella, che ovviamente verrà vista male dai miei compagni qui presenti in radio, è che abbiamo acquistato una piccolissima scheda audio che è capace, dalla scheda audio madre, di mandare il... Buco, non risponde, vabbè, chiudiamo sta telefonata. Di mandare il suono intero della radio... E al dolce. Stai zitto, sta parlando. Dio, mi sta guardando malissimo. Di mandare il suono intero di tutta la radio nelle nostre bellissime cuffie. Questa piccolissima scheda audio bellissima. Ha la marca, la stessa marca, attenzione, dei mega ampli da basso che si usano che nelle tecnazze pesanti dei rave. Ma veramente? HM? Il lomino che balla non vi dice niente? No, perché siete due pagliacci, non ci andate alle feste. Allora, cioè, guarda, appunto primo io ci andavo per lavoro. E allora non guardavi la marca degli ampli, perché questa è la Machi. Ma cosa stai dicendo? La Machi, ma tu non hai capito niente. Zio, i cassoni, tu veramente hai capito, non hai capito niente. Non hai capito veramente. I torroni alti, assolutamente no. Non hai capito nulla. Tutte le marche possibili tranne la Machi. La Machi viene messa, ostracizzata come una delle marche pacco come la Lem. Adesso chiamiamo Andrea Cegna. Anzi, chiamiamo Sushi, te lo facciamo dire da Sushi. Funziona, Guglielmo, la togliamo. La buttiamo. Certo, spacca la martellata. Spacca la martellata. Cosa vuoi te? Tutta sta gente. L'urlatore è arrivato in radio, senza urlare sto volta. Io non lo so, so che serve i soldi e arrivano subito i soldi. Si può attaccare altri 5 microfoni? No. Se ne possono attaccare altri 0. Parlate voi e tra un secondo tornerò. Intanto io provo a è anche arrivata l'uomo. O'Connor, detta anche Roberto. Da ragazzi, domani arriverà una puntata delle Ribelli che non vi racconto neanche. Non vi racconto neanche. C'è già la scaletta? Comunque. No. Si è appena ricordata che domani sera doveva fare qualcosa. Puntata delle Ribelle a rischio. C'è anche della moneta nella mia mano. A me Sala non ha ancora mandato i 300 euro che mi deve. Come facciamo? Ci sistemiamo dopo. Peppone, paga i debiti. Scusi, mi è arrivata una mail. Non so. Metta sul conto di Sala. Riccardo fa fatica a inserirsi. Allora, non lo so, è partito male oggi perché non ci rispondono al telefono a parte 5. Fa fatica, ma io ho qualcun altro da chiamare. Persone ben più raccomandabili. Senti, basta, lo richiameremo dopo. Me, raga, io vi rispondo. Grande. Ma tu sei già qua, Rachel. Noi siamo già emozionati per questo. Ma tu parli anche al nome di acciaieria, adesso che sei una compagna di Zambo, mio Dio, l'ho detto! L'ho detto! L'ho no, detto. Raga, io non scalo da 3 anni, più o meno. Allora, attenzione, attenzione, si complicano perché mi scrivono anche dalla Svezia. Ma che memo Teo invece? Quindi, dalla bravo, Svezia. Ma te, anche Teo è un po' in fuori dal giro, dai. Chiamiamo lei, chiamiamo lei che è una persona faremo seria. Anche uno spoiler fra poco. Per lei la capoeira è una questione di famiglia, il suo marito è il nostro professore, ma lei pesta di brutto perché è una donna con degli attributi femminili. E quindi mi sono salvato in corner dal sessismo dilagante, imperante, strisciante. Male che Roberto Elena, è rispondici via al telefono che parleremo un attimo di quello che tu fai e soprattutto delle... Ah, quello poteva essere un'ottima mossa, bravo, vedo che sei un regista attento. Cosa è successo? Aveva il microfono del telefono abbassato a zero. Riccardo, ah, ecco, tieni alta la tensione. Vai Riccardo. Però la macchina. Alta la tensione, devo tenere alta la tensione. Sollevala di più. Continuate ad ascoltare la mia voce mentre questa tensione servizio sta... di segreteria telefonica. Cane, porco, se inizia un'altra puntata con la Vodafone, io cambio programma. Ma più che altro dovremmo cambiare operatore, forse. Niente, andiamo invece a colui che ultimamente ci ha sorpreso con dei video su YouTube fantastici. Adesso a rotazione. Noto nel servizio tutti di segreteria telefonica. Ciao, niente, il mercoledì la gente ha deciso che spegne addirittura i telefoni per paura di zona rossa. Scappiamo, inizieremo. Sappiate che se andate avanti così, noi iniziamo a chiamare schema numeri caos, a caso. Schema caos, ragazzi. Schema caos, prendiamo schema caos, proprio l'incidente. Via, via, qualcosa dobbiamo pur fare. Dobbiamo pur fare, cioè, se non ci risponde nemmeno lui. Mai. Pronto? Devi parlare però. Pronto? Ci sono, mi senti, sento. Oh, bene. Come va, Maccio? Tutto a posto? Oh, madonna, ho rimosso questa cosa. Quale cosa? Il programma preferito di Maccio? Sì, esatto. Avevo rimosso. Bentornato su Radio ZM, Macio. Vuoi dare un contributo? Che carini, grazie. Ascolta, abbiamo un nuovo amico in radio. Abbiamo un nuovo amico in radio, vuoi salutarlo? È il tuo preferito. Ciao, Macio. Chi è? Come stai? Ah, Riccardo. Ho chiamato subito. Come dove sei, Macio? Eh? Dove sei? Raccontaci dove sei. Cosa vedo nei tuoi occhi? Contentissimo. In questo momento sono in macchina che sto concludendo il mio fantastico servizio da volontario. Ah, anche tu. Per il militante. Sì. E mi vuoi sto appropinquando verso tratta la mia abitazione. Ah, hai finito, quindi stai tornando a casa. Ah, ok. Sì. Ma volevamo chiederti, Macio, cosa ci sarà questo weekend? Eh? Un contributo per questo weekend, due parole su questo weekend. No, non inizio cosa sei sul, bravo. Sul weekend, cioè quello della liberazione? No, più che altro su Partigiani in ogni quartiere. Ah. Beh, Partigiani nel quartiere, come sapete, è l'evento che si è sempre tenuto da 13 anni a questa parte e quest'anno, ahimè, dato il lockdown, si terrà online, quindi dalle 18 in poi seguite la pagina Facebook, connettetevi su Facebook, Instagram, autistici, eccetera, eccetera, eccetera. Ci saranno un sacco di belle persone che diranno delle belle cose. Bene, bene, quindi sabato sera tutti collegati sulla pagina Facebook di Partigiani in ogni quartiere e ci spariamo esatto queste 4-5 ore di diretta live con i presentatori e le presentatrici esatto che ci alletteranno la serata. Voglio ringraziare nello specifico Lorenzo, che è uno di quelli che ha dato il suo contributo per la nostra collettività, per far sì che questo evento sia visto con una qualità decente e goduto con altrettanta qualità. Sì, la cosa che a me ha fatto piacere è stato conoscere delle persone veramente fantastiche, quindi volevo salutare Matteo, Domenico, Nicolò e tutta la banda che ha contribuito alla realizzazione di questo POQ digitale. Basta Guglielmo, ho smesso di fare il serio, scusa. No, no, è che la questione è che poi, cioè, potresti anche farla qualcosa per POQ, Lorenzo. Mamma mia, ha fatto un cazzo negli ultimi 16 anni e monta i due video, madonna, oh, mamma mia. Esatto. Sempre a lamentarsi. Grazie, Macio. Grazie a voi, ragazzi. La canzone, Macio, la canzone. Voi. La canzone per oggi possiamo c'è una canzone, mettere dei Prodigy. No, no, che no, mi torna in testa ultimamente. Nessun... No, avrò visto un video. Nessuna canzone anni fa. Nessuna canzone dei Prodigy. Direi no. Un 24.000 baci nel 80. Oh mio Dio, bellissimo. Arriva. Intanto intrattenete Macio che c'è con la canzone. Vai, intratteni Macio, Riccardo. Ma cioè, che cazzo ti devo dire? Ma viene a mangiare con noi oppure no? No, no, vi ringrazio. Stasera mangio in altro modo. Vai a mangiare a casa? Esatto. Davvero? Mangerò delle cose molto buone in un altro posto che è casa mia. Va bene, vai al ristorante come al solito. Ottimo, peccato perché qua c'era dell'ottima pizza margherita da San Tommaso, sì. Tanto per dire. Auguri Giulia, ricordiamo al mondo che è il compleanno di Giulia. Auguri. Tanti auguri Roberto! Auguri. Auguri, auguri, auguri, tantissimi auguri. Quindi la canzone per Macho è quasi pronta. Ti ringraziamo tantissimo perché personalmente è una canzone che io apprezzo molto. Bene. E quindi allora. 24.000 baci per te e per tutti i compagni e le compagne che ci stanno ascoltando e ci sentiamo sabato per Partigiani in ogni quartiere e domani mattina. Va bene, ciao Macho, grazie mille. Ciao a voi. Ciao Macho, grazie. Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah, yeah. Con 24.000 baci, così fedeli che l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così fedeli per l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così fedeli per amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci. Il vento a fare brillare gli occhi miei. Sembra strano che veda delle luci che mi cercano negli occhi tuoi. A me non basta sapere che gli anni passati a cercarsi hanno solo aumentato la voglia di restare complici. Serve cercare un motivo, tanto già sapevo che a te serviva solamente il tempo per convincersi. Non credo che sia già difficile dirlo a parole, ma quelle risposte che cerchi verranno da sole. So esserci. Dimmi se sei con me. Non è più tempo di nascondersi. Prendimi. So che tu puoi portarmi fuori da qui. Ti basta poco per illudermi, facendomi dimenticare chi la notte perde i suoi sogni per me. Mannaggia quella pace a quando è troppa, perché scotta e ti blocca, ma questa notte non mi fa dormire. Ma quella pace che sogno e che sogni da tempo, forse lo sappiamo che era soltanto il modo migliore per uscire. Passano gli anni, ma gli animi increduli a quello che gli succede si vede, comunque mandano avanti la... Tronchiamo direttamente questa canzone perché la musica ci ha anche un po' annoiato. Scusate l'attesa, ma è il compleanno di Roberto qua in collettiva, abbiamo fatto gli auguri. Minchia, tra poco adesso sentirete da uscire dalle casse l'odore di pizza, perché sto ruzzando. Aspetta, aspetta vulcano. Guglielmo, che il computer ci sta dicendo che non siamo on air. In che senso? Nel senso che internet non funziona. Molto bene. Wait. Pink, pink, pink. No, beh, comunque hai cercato una pagina fantastica. Oddio. Ok, siamo tornati. Siamo tornati. Zona rossa, scusate l'attesa, non so da quanto non si sente. Spero si sentite della musica decente perché c'era Auto DJ in riproduzione casuale. Roberto ha fatto gli anni, eravamo giù a fare gli auguri un secondino così al volo e ora stiamo cercando di ricontattare la Vodafone sperando che ci risponda. No, beh, a questo punto facciamo un test di quelli seri, cioè proviamo a accendere la radio da qualche altro punto per vedere se ci sentiamo, ma a questo punto... Confermo che siamo on air. Fantastico. Ma allora, come dire, questa puntata di radio di Zona Rossa sta diventando sempre più Zona Rossa, cioè esatto. Praticamente è se stessa che replica se stessa all'ennesima potenza, sempre più a caso, sempre più sgangherati, esattamente, sempre più assurdi. Però abbiamo fatto l'upgrade, l'importante è che ci sono gli strumenti nuovi, usiamo sarà da vedere. Chissà che se un giorno magari durante la diretta useremo anche quest'altro computer che è qui a prendere la polvere da un po', mentre non prende assolutamente proviamo. Il nostro ingegnere preferito che da ieri è entrato in un tunnel fatto di circuiti elettrici, voltaggi, amperometri e culo. Salverà la vita a tutti noi. Oggi mi ha spiegato più o meno alcune cose e devo dire che alcune cose le ho capite perché lui va a spiegarle, ma sono troppo stupido per andare più avanti di così. Quindi grazie Iafi e complimenti per il tuo lavoro. Speriamo che la tesi vada bene se andiamo a picchiare qualcuno. Beh, direi che almeno ci proviamo. Va bene, allora, ci eravamo salutati augurando a qualcuno che l'avremmo richiamato, anzi minacciando qualcuno che l'avremmo richiamato entro brevissimo. Vediamo se Mister Acciaieria, no, è partito un altro numero, stiamo chiamando Elena, fantastico. Ma va benissimo, anzi vediamo, ti sta chiamando rispondi. Elena. Sì. Rispondi. Oh, mi sta chiamando Elena. Sì, ti sta chiamando Elena. Pensavo mi stava... Ciao Elena, benvenuta su Radio ZM. Ma chi stai salutando? Ha messo giù. Non ha messo giù, non hai fatto in tempo a rispondere, figlio. Pagliaccio. Io stavo pensando di chiamare lei, e invece lei chiama. E lei chiama te, è amore. Devastante. Ah, già, è sposata. Esatto. Non fare certe allusioni perché non hanno molto senso. Sì. Ciao Elena. Ciao. Benvenuta su Radio ZM, Elena. Scusate, non ero pronta. Ah, non eri pronta? Ma come mai? È giusto così. Ti ho minacciato che ti avrei chiamato tipo settimana scorsa e non capisco perché non eri pronta, dormivi sul telefono, come mai? Strano, a volte capita. Yeah, va bene carissima Elena, noi volevamo chiederti qualcosa riguardo alla capoeira, che cos'è, come la fai, da quanto tempo la fai, parlaci della tua esperienza nel mondo delle verticali con la musica ossessiva ripetitiva. Allora, dunque, la capoeira è un'arte marziale che... ha origine in Brasile ed è il risultato della fusione delle danze tribali portate dagli schiavi provenienti dal Centro Africa e portati appunto in schiavitù nei paesi del Centro America, in particolare in questo caso in Brasile. La storia è abbastanza nota, credo, non avevano libertà di movimento, non avevano libertà di espressione e crearono questa arte marziale in cui non c'è un vero e proprio contatto fisico nell'idea, quindi di partenza, ma poi talvolta accade che ci sia contatto, e veniva accompagnata da questa con una musica lo strumento principale del birimbau, che è una sorta di arco, un ramo con un filarmonico, a cui viene applicata una cassa di risonanza, che è una zucca praticamente, viene suonato con una bacchetta e accompagnato con una sorta di sonaglio che si chiama cascicin. È una voce stentorea che perfora i timpani di chi fa sport nella sala di fianco, tendenzialmente. Sì, esatto. Si compone di questi strumenti, cioè c'è l'arco, c'è la zucca, c'è il sonaglio e la voce che magicamente compare nei polmoni di chi ha il birimbau. Esatto. Chiaramente una delle particolarità come arte marziale, che è la differenza dalle altre arti marziali, è che c'è lo studio della musica che va di pari passo con lo studio del movimento e delle capacità atletiche. Poi ci sono altri strumenti, ci sono percussioni, tamburi, eccetera. Quindi è appunto anche da qui il ritmo abbastanza ossessivo della musica, ossessivo poi per gli altri. Bello. Quindi questa è l'origine, insomma, nel riassunto massimo che se ne può fare. In realtà la capoeira poi arriva negli anni 90 in Italia, inizia a diffondersi e appunto raccoglie numerosissimi gruppi. C'è questa divisione per cui da maestre bimba, allora ci sono due distinzioni principali da fare. Esistono due tipi di capoeira, la capoeira angola e la capoeira regional. L'avrei raccontata almeno 50 volte la divisione e me la dimentico sempre, è incredibile, anche esatto. Adesso non saprei dirtela assolutamente. Allora, quella che pratichiamo noi è la capoeira regional, che ha come radice nel lontano inizio Novecento maestre bimba, e che fu il primo a portare poi la capoeira, toglierla dalla strada, toglierla dall'illegalità appunto all'inizio del Novecento in Brasile, e a portarla nelle accademie, a codificarla e a definire una serie di canoni. Ma scusa, ma si parla di primi del Novecento, si intende proprio 1910-1920? Sì, maestro Bimba nasce nel Novecento, considera che inizia intorno al 20. E cioè i ritmi erano diversi, erano più swing, c'era un foxtrot nella musica? Sì, cioè si è evoluta anche la musica nel corso del secolo? No, nel senso che la musica rimane molto legata alla tradizione, molto legata alla tradizione orale, quindi sicuramente ci sono stati dei cambi, delle evoluzioni appunto legati alla trasmissione, però di base ci sono dei capostipiti, diciamo, che rimangono sempre quelli. Poi chiaramente ognuno ha il suo modo di suonare, utilizza il suo ritmo specifico, che segue anche quello, la divisione dei gruppi, la divisione delle... i ritmi si chiamano toques, ci sono toques specifici della capoeira angola, toques specifici della capoeira regional. Poi in realtà quella che si pratica adesso si viene detta capoeira contemporanea, perché poi è molto difficile fare quella tradizionale, che è molto rigida, molto, adesso si tende a fondere un po'. Mm-hmm. Quindi diciamo che questo è l'inquadramento generale. E appunto ci sono tanti gruppi in Italia, sia di capoeira angola che di capoeira regional contemporanea o di ispirazione regional. Ma invece per capoeira angola invece cosa si intende? Perché la regional è quella, ok, quella è stata poi portata in giro per l'Europa. E invece l'Angola? No, ma c'è tantissima capoeira angola anche in Europa. Allora, come grossa divisione, se uno dovesse fare della capoeira in giro, la capoeira angola è quella che è molto più lenta, si gioca molto a terra. Di solito la roda, che è diciamo la sede del gioco, non ha la gente in piedi, ma sta seduta, non battono le mani, mentre nella roda regionale la gente in piedi batte le mani e c'è molto più... Un po' più festaiola, insomma, un po' più amorosa. E tu sei Angola o regionale? Allora, quella che si pratica... Azam, capoeira contemporanea di ispirazione regional, il gruppo Soluna. Ma la tua proprio, però, scusami, quella da cui provieni tu, che hai iniziato tu a fare, non so dove. Il tuo percorso. Io ho una provenienza un po' diversa, però di base è la stessa radice. e quindi il gruppo Soluna è un gruppo che nasce all'inizio degli anni 90 a Roma con il maestro Osvaldo da Silva, che è stato uno dei primissimi a portare la capoeira in Italia, e poi i vari allievi hanno formato altri allievi, tra cui il nostro professore Umano. Professore. Io ricordo benissimo una scena di un anno esatto fa, quando era attiva la campagna Zam Solar System, che ti ha tirato un calcio in faccia. Faceva bene, doveva tirartene anche un paio. Avevo filmato una lezione e per me era la prima volta che assistevo a una lezione di capoeira. Filmandola poi sei ancora più recettivo. Mi aveva colpito tantissimo e avevo pensato di ritrovare del tempo per riuscire a frequentare. Poi non è successo, ovviamente, perché sono pusillanime, come Stavo per dirtelo, esorta spessissimo. Siamo già lì sulla punta della lingua. Però sei un pusillanime. Ti chiedo di salutarmi Umano tantissimo, che ero rimasto molto colpito, gliene avevo anche parlato, proprio per la musica. Perché io, da amante della musica techno, e la musica techno scava nelle radici della musica africana tribale, mi aveva portato proprio a un richiamo danzereccio che a me piace molto. Sì. Beh, è sicuramente uno degli aspetti. Poi spesso quando uno inizia a praticare capoeira è più concentrato sulla parte fisica e sull'allenamento vero e proprio, però in realtà appunto è il tratto distintivo dell'arte marziale in quanto tale, perché se vuoi diventare forte, se vuoi crescere, devi parallelamente alla parte fisica devi portare avanti anche la parte musicale. E questo spesso, cioè, si vedono spessissimo persone molto forti, molto allenate, che faticano molto ad essere invece la parte ritmica, la parte melodica. Ah, sì, perché magari a farla verticale si impara, ma avere un po' di ritmo è un po' più difficile. Non tutti quanti. Sì, ma si impara anche quello, però l'impegno è del tutto personale, e quindi insomma ci si trova ad affrontare idee diverse in un ambito diverso, nel senso che appunto chi si avvicina spesso alle arti marziali non deve fare questo ulteriore lavoro, no? No. E quindi io non riuscivo a cantare in portoghese quei pochi mesi che ho fatto di capoeira insieme al nostro professore, che ai tempi non era professore ma era istruttore. E non riuscivo proprio a cantare in portoghese, mi si bloccava, perché io ho questo difetto cerebrale, per cui se suono la batteria, perché suonavo la batteria, non riesco a parlare, cioè proprio non mi si muove la mascella. Non faccio fatica a credere. Figurarsi, sì. Simpatico. Anche quello si allena, per carità, anche quello si allena. Però ecco, per esempio, questo è un altro lato interessante, si impara il portoghese. Il portoghese brasiliano, ma si impara alla fine, perché inizialmente si ripetono suoni privi di significato, e poi pian pianino si impara anche quello, perché ci si sente alquanto idioti a cantare cose che non hanno senso. Elena, si travisa molto. La capoeira in quarantena viene fatta su Zoom? Esatto, lo chiedo anch'io. Allora, la capoeira in quarantena viene affrontata in modi molto molto diversi, quindi diciamo che il nostro Umano è completamente in lutto in questo momento. È il funerale totale, sempre. Sì, esatto. Ogni tanto suona qualcosina, ma per il resto è abbastanza abbattuto da questa mancanza di spazio, in primo luogo, perché in casa non c'è molto spazio, ma... Quindi non fa le verticali nel tinello, si mette a fare la ruota tra la cucina e il salotto? Guardando l'inquadratura della webcam... No, le nostre figlie sì, lo fanno le ruote in tinello, sono felici, lui soffre moltissimo, ma più di tutto gli manca la socialità. Il gruppo. La classe. Il gruppo, ogni tanto si cerca di tirare in mezzo il gruppo con aperitivi, Skype, roba del genere, però poi la tristezza regna sovrana perché manca la capoeira. La saudagi che torna. Saudagi, molto saudagi. No, ma assistere a una lezione fa capire esattamente tutto questo discorso. Infatti la mia era una domanda che poteva essere pericolosa, però volevo appunto capire. Per la quarantena, assolutamente, la mancanza di gruppo, perché poi diventa chiaramente un riferimento, una routine, e come tale molto calmante, rincuorante, una piccola famiglia che si forma a lato della propria famiglia, e quindi sì, assolutamente. Ah, perché... riesce a fare un po' di attività fisica, però appunto rimane attività fisica. No, perché la questione è che effettivamente, mentre le arti marziali ce l'hanno un po' ogni tanto di questa cosa del guerriero solitario che si allena sotto la cascata, piuttosto che corre in spiaggia, piuttosto che sta al sacco ore e ore, effettivamente il capolista da solo mette la musica con la cassa Bluetooth e fa le ruote nel vuoto, però dici sì, vabbè, ma effettivamente il bello era, esatto, cantare insieme. Però Elena, mi è arrivato in mente, mi hai dato proprio un là di un argomento che volevo tirar fuori, tiro in mezzo anche te. Ho fatto un ragionamento in questi giorni, anche perché Zona Rossa prevede che noi andiamo a disturbare un sacco di gente, e ovviamente la domanda relativa alla propria passione che andiamo a indagare rispetto alla quarantena viene scontato farla. Si sta parlando tanti giorni, tante parti, che questa cosa di assenza di socialità potrebbe danneggiarci nel momento in cui... E invece mi sono messo a ragionare, e la tua risposta rispetto a, appunto, l'umore del professore in questi giorni, secondo me è probabile che nel momento in cui riprendiamo un po' di libertà ci mancheremo così tanto, ci siamo mancati così tanto, che la nostra socialità potrebbe impazzire completamente. Attenzione. E quindi essere più uniti ancora di prima. Questo momento di separazione potrebbe... È come quando sei molto legato a un amico o un'amica, un periodo separati dopo come una... Come quando lasci il fidanzato e ti accorgi che ti manca. Sì, esatto. Non proprio lasciare, però magari una situazione forzata, non so, magari la persona a cui vuoi tanto bene deve andare via per lavoro 3 mesi, quando torna è tutto bellissimo, giusto? Passi un periodo molto positivo perché la mancanza era molto forte e il ritorno è molto sentito. Quindi forse se riuscissimo a convertirla in questa situazione qua, ritrovarci potrebbe essere ancora più bello di quello che abbiamo lasciato. Allora, secondo me riguardo alla capoeira sì, ci sarà una grandissima voglia di stare insieme, poi nella misura in cui sarà possibile farlo. Sicuramente si apprezzeranno appunto i piccoli momenti di socialità, ma questo in generale, al di là della... sì, in particolare questa cosa di, secondo me, in questo periodo di quarantena, poi si è andate anche a cercare persone che effettivamente magari poi nella normalità pre-quarantena non erano tanto nei nostri pensieri, però si è instaurata un po' questa, e questo al di là della capoeira, questo è il mio personale parere, si è andata un po' a ripescare, perché ovviamente tutto questa immobilità, questo periodo ci fa pensare moltissimo di più, e si è andata a ripescare anche qualcosa di precedente, a mio parere. Quindi secondo me si ripartirà anche con la capoeira, ma con uno sguardo un po' più lontano nel tempo, quindi ripensando anche a cose fatte prima, ripescando persone un po' perse per strada. In questo senso, se intendevi la nostra socialità impazzirà, sì, impazzirà, perché si cercherà di raccogliere fili caduti per strada anche pre-quarantena, secondo me. Bello, bello. Grazie per aver condiviso questo ragionamento con me. Guglielmo mi sta guardando malissimo. No, perché invece io ovviamente avevo una cosa molto più stupida da dire, cioè magari con questa esplosione di socialità, chissà, anche chi fa capoeira, facendo capoeira, si toccherà, invece di schivarsi all'infinito. Oh, mamma mia, acidata totale! prendimi, per favore! Vengo lì con tu così, tu sicuramente ti sei prenotato 2 calci. Esatto, esatto, esatto. Io mi iscrivo, appena riprende tutto mi iscrivo, giuro. Guarda, è strano. Fare un'arte di combattimento che non ci si tocca mai è veramente particolare. Poi se qualcuno vuole chiamarla arte marziale, ma io non so. Lo so, però io non avevo precedenti esperienze di arti marziali prima di venire a contatto col mondo della capoeira, ma sappiamo benissimo che l'arte marziale tutta, anche quelle orientali eccetera, non si esaurisce nel colpo, c'è tutta una filosofia dietro. Certo, però ogni tanto un pugno in faccia, voglio dire, ci sta, sei lì per far quello. No, ma non voglio fare polemica, assolutamente, non è per questa cosa strana. Guarda il mio tallone come ti schiva bene, roba strana. Va bene. Non ti preoccupare, che a te non verrai schivato. Finalmente, non lo aspettavo di meglio, la mia faccia è fatta per essere picchiata ripetutamente. Elena, carissima, ti chiediamo a questo punto un brano musicale che ti piaccia, che sia stile capoeira, ma anche no, puoi dirci l'ultimo qualsiasi brano. Qualsiasi cosa. Assolutamente qualsiasi. Posso dire quello che... Ciao Roby. Eh?

Oh mio Dio, il tasto, quello lì è proprio... Madonna, santa, bellissimo. È proprio una figata. Il nostro studio se ne sta andando nel nostro terzo speaker, che c'è stato poco, c'è stato male, lo ringraziamo per questo. Grazie, grazie mille, puoi anche portarti via il microfono e metterlo a posto. Visto se vuoi, che però Rachele può restare. Rachele può restare, so, cioè, li vogliamo bene. Stacchi tutto, insomma. Un po' di disciplina. Meno male pochino, che c'è Lorenzo. Un pochino. Meno male che c'è Lorenzo, che lo fa senza risultare negativo. Tutti devono dare qualcosa, se no... Esatto, scusa, mi avete dato un pugno nel ginocchio, come mi spiace. Va bene, allora riproviamo a chiamare colui che solo può darci informazioni intelligenti sull'acciaieria, sperando che risponda, che ci sia, che possa. Esatto. Che riesca. Ieri comunque mi ha mandato delle foto molto particolari della sua vasca da bagno, qualcosa di meraviglioso. Davvero? Sì, ma ragazzi, secondo me è stato bellissimo. Cioè, secondo me è un'idea geniale. Secondo me è un'idea geniale che ha avuto. A proposito di coccole. Cosa ha fatto nella vasca da bagno? Necessito di coccole. Elia è con noi! Ciao Elia! Voglia di coccole? Voglia di tantissime. Coccole. Si è avvicinata una donna a me come non mai in un mese e mezzo da questa parte. Come non mai nella vita. Mi giro la testa un attimo, aspetta che mi riprendo. Caro Elia, aia, ragazzi. Ciao. Come stai? Anch'io, come stai? Mentre qui Lorenzo fa gli deficienti in studio. Stanco, ma di cosa? Che stai facendo? Sto facendo il bambinaio. Stai facendo addominali adesso? Esattamente come l'ultima volta. Il bambinaio. Ah, il bambinaio, ho capito gli addominali. Ma che cazzo? No, che gli addominali no. Gli addominali no. No, ora sto facendo il gin. Ora invece sto facendo il gin liscio. Con ghiaccio. Minchia, così proprio? Ma al bambino o a te? Alle 20:50? Al bambino, è il tuo metodo. Certo, certo, nel biberon. Certo, certo. È il famoso biberon, il famoso mezzo e mezzo, no? Sì, sì, sì. Per i bambini. Posso fare una domanda cattiva? Prima che se ne vanno i due coniugi ad Inolfi. Scusate, ma perché Elia non fa le pillole di ecologia con voi? Esatto. Che pillola è? Non si sente Riccardo, hai staccato il microfono. Elia, rispondi. Perché è un cialtrone. Si è avvicinata di nuovo, io non so cosa fare. Oddio, no, ma c'è... Ci sono. C'è la famiglia Vianello lì? Sì, c'è la famiglia Vianello. Esatto, esatto. C'è Ri, che non sappiamo chi sia, e Ra, la nota divinità egizia del sole. Sì. Ma magari l'altro è lo sciacallo, giusto? Anubi? Sì, l'altro è la Diocane. Purtroppo il sciacallo. Lo si deve definire. Usa il microfono, così. Riccardo. No, ma comunque possiamo riuscire a fare ancora più casino, se vogliamo. Cioè, ho le cuffie e non riesco a sentire quello che sto dicendo. Alziamo. Le bestemmie che non tiro. Va bene, Elia carissimo. Cosa stai facendo? Il bambinaio? E stasera ti bevi del gin? È finita la tua giornata a bambinaio? Ti stendi finalmente sul divano? È finita la mia giornata a bambinaio. Al momento sono su una branda con un materasso alto qualche centimetro, che è una dove rotta, dormo col sacco a pelo. Ma perché da sei un mese e mezzo. Sei accampato in casa tua? Sono accampato in casa di mio fratello, purtroppo. Non è casa mia. Perché io non vivo più in casa mia da un mese. Ah, bello. Che comunque lavalo ogni tanto sto sacco a pelo, eh. Allora, lavati te Elia, comunque galline, ogni tanto. Le galline, Elia. Allora, ma sei contento del solare che funziona ZAM? Dici, dici. Non sta ancora funzionando. Ah, il solare, aspetta, ma mettiamola in una modalità più radiofonica. Il progetto Sol dell'Avvenire sta giungendo a compimento. Sì. Appena quell'altro, quello che fa tanto l'ecologo, esatto, bla, le specie, le robe. Dammi la banana! Cosa è successo? È la banana? Riccardo, la banana? Dammi la banana! No, ragazzi, c'è un video che effettivamente il CESA dovrebbe pubblicare. Ah, perché... adesso ho capito. Minuti di follia totale, che rende conto la vita appunto negli zoo, tutto lo stress del cammino banana. Potreste fare un programma? Sì, ma solo così, un'ora e mezza così. Dammi la banana, vi prego. La domenica sera. Noi dopo siamo a telefono con Steiner, stiamo a un livello veramente bassissimo, tra 8 minuti tipo. Pietosissimo, ma va bene. Elia, riprendiamoci. Grazie. Noi, la puntata di oggi, rutta pure liberamente, non ti preoccupare. La puntata di oggi era incentrata su fare sport in quarantena. Tu fai uno sport che di sua definizione non è sport, perché significa, sì, cioè, tendenzialmente voi state fermi sull'angolo di roccia cercando di non cadere. Esatto. E quindi come vi allenate in quarantena per rimanere attaccati a un angolo di roccia senza cadere? Riccardo allora, ha fatto delle cose belle. Io rimango attaccato a un angolo di ferro cadendo, cioè ovvero ho iniziato a fare trazioni in modo compulsivo. Bravo, grande, anch'io le faccio, ma non sto avanzando di niente, cioè ne faccio sempre 4. Non riesco a capire come mai. No, io invece guarda, aspetta, allora ti consiglio questo trucco. Allora, prima di tutto cambiare sempre la presa, cioè da prona all'altra. A supina, certo, e fin qui ci siamo. A supina, sempre. Sempre. Io la larghezza delle spalle non la posso aumentare perché mi fa male una spalla. Uh-huh. Però inoltre uso queste serie che sono molto comode, che sono le serie piramidali. Ah. Cioè tu fai una trazione, sì. 10 secondi di riposo, sì. 2 trazioni, 10 sì. secondi di riposo, bene. 3, 10 secondi, 4, 10 secondi, 5, 10 secondi, 4, 10 secondi, 3, 10 2, secondi, 1. 2. E poi finita la serie, 2 minuti di riposo. E quante volte, quante serie fai? Una. Minchia. Comunque, Zona Rossa è l'unica radio che ti dice anche come fare ginnastica. Porca miseria, quanto siamo forti. Porco. Io ho dormito gli ultimi 5 minuti. Un giorno. Tu sei un uomo amorfo e orrendo. Vabbè, anch'io, ma in altre maniere. E questa cosa come ti permette di scalare di più? Perché ti tieni di più quando trazioni? Non mi tengo di più perché non saprò usare i piedi, ma almeno passo il tempo. Ok, okay. Ottima risposta. Ma sai che io l'altro giorno insieme a Grazia Maci ho visto un video di Adam Ondra. Per la prima volta ho capito bene chi è Ondra ed è un mostro, cioè orribile. È una specie di insetto sterco. Spiegami che sono un ignorante. Cosa fa questo? Perché è un mostro? È fortissimo. È uno, che scala tantissimo. Sì, è uno dei, brutto. È uno, penso, l'arrampicatore più forte che sia mai esistito. E mai esisterà probabilmente. Però io immagino, cioè, avendolo capito così, no, pensavo uno tipo Usain Bolt, che magari non è bellissimo, però comunque un fisico atleta. Invece questo qua è ciccionissimo, no? È terribile, no, no. È magrissimo, ma sì. Proprio magro. Okay. Braccia lunghe, scheletriche, manone grosse, poi c'ha il naso lunghissimo. C'ha sti muscoli che sono tutti affilati, lunghi, non c'ha niente di spesso. Ah, ok. E poi, a parte il fatto che io non lo sapevo, perché voi non avete mai fatto vedere scala, le poche volte che abbiamo scalato insieme, caccia degli urli allucinanti. Delle urli, quando si tira su? Sì. Tira degli urli? Hai mente? Ma da fermo, senza nemmeno andare a cercare la... Lori, hai mente? Il paragone è tipo, hai mente nei mattatoi, i maiali che vengono sgozzati a LAL sì, o roba sì. del genere? Quello. Però solo che lui lo fa ogni movimento. Ok. Effettivamente c'è da dire che sono cose anche dolorose quelle che fa. Ma forse la sua leggerezza è la sua forza, nel senso tipo, che più sei leggero sì, più ti tiri su. Una volta ho visto che urlava tantissimo e si faceva mettere un piede nel culo. Zona Rossa, tutta per voi, signori. Tra 4 minuti Andrea Staidi in diretta. Grazie Elia, grazie. Tu sei, certo. Incarni proprio lo spirito di Zona Rossa. Sì. No, ma la cosa bella è che comunque noi cerchiamo di essere stupidi, ma chi ci circonda? È stupido come noi, se non di più. Ed è bellissimo perché sguazziamo. Beh, oddio, non siamo sempre così fortunati. Certo, eh? Però sguazziamo sempre, capito? Nella melma, condividendola con altri, è fantastico. Dovevamo parlare di Ceri Azzam, non abbiamo parlato, il tempo l'abbiamo finito, chi se ne frega, allora, ti no, chiameremo? Vai, Lucio. Vai, ti richiameremo un'altra volta. Era tempo. Io non ho capito... Fosse riempitivo, no, cioè, dovete dirmelo prima. Noi ti chiamiamo per riempire, allora noi ti chiamiamo allora per partecipare. Allora te l'hai subito in ma quarta, no, ma no, ma poi ci piace tutto. Lasciare libertà, non ma ti preoccupare. Ma va bene così. Ti abbiamo chiamato per un motivo, è completamente sfumato, ma chi se ne frega, dai. Cioè, non è che abbiamo qualcosa da dire di almeno, io. Almeno scegli una canzone decente. Esatto. Almeno. Dacci no, canzone. No, raga, basta, io ho finito le canzoni buone che conoscevo. Elia, non ascolti musica. No. Non ascolto musica. Dai, dici quello che ascoltavi alle medie. Esatto, ma qualsiasi cosa. Le ultime due canzoni che ho fatto le ascoltavo alle medie. Adesso devo aspettare. Aspetta. Fatele consigliare dal bambino che ce li fianco a te. Bravo. No, il bambino è nell'altra stanza. Ma che cazzo di bambinaio sei? Hai legato nell'altra stanza, hai detto? No, ma ora è tornata la mamma, se gestisce la mamma. Ah, ok. Chi della mamma una canzone? Lui adesso sta gestendo il gin. Giusto, è vero. Lui adesso sta gestendo il gin, tra l'altro. Ho speso metà stipendio. No, non è vero. Elia, stiamo aspettando la canzone. Dire? Tranquillo, tanto è che i tempi morti in radio non è che ammazzano l'ascolto. Ci piacciono, facciamo un minuto di silenzio. Dai, va bene, diritto al tetto dei ministri. Così. Cos'è che hai detto? I ministri chi? Diritto al tetto. Ma tu sei sicuro di quello che stai scrivendo? Sì. Ministri? I ministri? Ministri. Delitto? Diritto al tetto. Dritto al tetto. Ah, dritto. Diritto, raga, diritto. Diritto. Come quelli che ci vengono negati? Dritto al tempo, diritto, non diritto. Un giorno capirà, Elia, che le canzoni che ci fanno cagare facciamo fatica a capirle. No, non è vero, i ministri sono bravi. Si sta scherzando. Tra l'altro, i ministri furono un gruppo. Io ho sempre pensato che fosse diritto al tetto. È diritto al tetto. Sì, sì. È diritto? Sì, diritto. Mica, ragazzi, 7 minuti per capirsi. Mi sentite? Diritto, mi sentite? Diritto. La nuova parola da vocabolario loop. Tre deficienti. Stiamo preparando un programma in loop. Per esatto. Adesso il loop è mi sentite. Esatto. Lorenzo, 12 ore che dice raggiunto mi anche diritto. Diritto. Esatto. Ma Elia, non so, vuoi parlarci dell'associazione Petti Rosso quando siamo andati a Napoli? No. Guglielmo e Lia in trasferta a Napoli per l'associazione Petti Rosso APS. Madonna santa, cioè era come un film di Fantozzi mischiato con un film di Totò, cioè una roba. Ma poi devo dire una cosa su Fantozzi. Tragicomico. Sì, ma Totorino, ma magari. Ah, Totorino. Ma magari, ma magari invece no. Abbiamo mangiato però come se fossimo in un film, boh, era buffata, quella di cos'è? Ma sono state tipo 24 ore. Di più, 48. 72, no, 48. Sì, no, dovete fare 48. Un film. Abbiamo mangiato 700 volte, no, 700 no, ma 17 sì. Tutti i giorni 17 di numero in 48 ore, cioè stavamo morendo. Allora, andiamo diritti al tetto perché la canzone è pronta. Grazie Elia, grazie al bambino. Com'è che si chiama il bambino? Niente, ce ne sono due, uno si chiama Leonardo e l'altro Giulio. Ciao Leonardo, ciao Giulio, ci sentiamo la settimana prossima. Mi raccomando, picchiate più forte Lia. Esatto, trattate male no. Va bene, invece lo faranno lo stesso. Ciao. Ciao. Ciao. Con il pane, le case vuote puzzano. teniamo la coda e diamo fastidio alla coda di questa bellissima, bellissima canzone. Grazie Elia, non ti preoccupare. Infatti, per l'ansia, rimarrà. Veramente è una bella canzone, militante al punto giusto. Stavo per dire prima che i Ministri sono uno dei gruppi che venne sul bus a fare un concerto, non mi ricordo più per chi. No, ma mi piacciono leggermente più basso, se no mi do fastidio. Okay. Guarda che siamo col volume alto. Non ho capito. Siamo col volume alto della traccia e si sente questo fastidioso sottofondo. Ma no, ma non è fastidioso. Fastidioso, ascolta, te lo racconto io cos'è fastidioso. Va bene, va bene. Poi ascoltiamo il podcast che hai registrato in lingua inglese. Cosa? Cosa, scusa? Mamma mia, ma era una acidata nei confronti miei o nei confronti di Cesa? No, quello è silenzio prima del tuono, eh? Sembra un ragazzo tranquillo, silenzio prima del tuono. Va bene. Dimmi qualcosa di romantico. Leningrado, scusate, è una canzone che mi piace sempre, ma soprattutto temporeggio, mentre dovremmo chiamare lui, che solo può dare un po' più di senso a questa puntata così stranissima. Dopo la telefonata di Elia ce ne vuole, Mamma mia, ma poi scusami, iniziare trasmissione in ritardo per poi dopo 6 minuti andare a mangiare la pizza per 20 minuti? Cioè, ma siamo stati costretti. Siamo stati dei pagliacci, esatto. Pessimi, peggio del solito. Come sempre. Ma va bene così, ma va bene così. D'altronde era il compleanno di Giulia, alias Roberto, e quindi giusto così. Ciao Andrea! Pronto! Ciao Andrea, ciao, bentornato! Ciao. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Ma come state? Ma sì, dai, bene. Ma sì, infatti, abbastanza bene, dai. Puntata di oggi veramente senza freni e senza senso, quindi cerchiamo in te un'ancora e un volume di intelligenza. È presente il puzzle che tiri fuori dopo 10 anni che è nel cassetto? Uguale. Sì, esatto, però cerchi di farlo tutto fatto di acidi, quello è il problema. Va bene, ma carissimo. Beh, infatti, oltretutto guardavo un po' la programmazione di Radio ZAM, no? Uh-huh. E mi sono reso conto che io sono proprio l'ospite del programma più demenziale, cioè sono tutta roba seria e poi arriva il nostro cazzo, momento. L'ha realizzato Guglielmo, ci ha beccato, dopo un mese e mezzo. Però. Non abbiamo mai negato, siamo stati sinceri, e mi sono reso conto della situazione. Lo rivendichiamo. Esatto. Ti comporta qualche fastidio, Andrea? Sono indeciso se tradirvi con delle ospitate nella mattina techno. Potrebbe essere interessante, effettivamente. Sarebbe veramente un piacere e un onore. Fare tipo un reading di antropologia tipo etnografica di Malinowski su delle basi techno. Questo è l'unico momento serio di Zona Rossa. Prendete appunti, segnatevelo perché sarà così. Attenzione, quando Lorenzo si mette in testa una cosa, purtroppo la fa, quindi aspettati di essere chiamato alle 9 del mattino con ancora la reale che odore di candeggina quando la laviamo. Allora Andrea, lo facciamo, fai il reading, dai, io ti seguo. E se mi pacca leggerò io Stide in onda la mattina sotto la techno. Bravo, quel che succede succede poi. Fantastico, beh, io sarei d'accordo, comunque mi piacerebbe molto. Aspetta che finisco di scrivere. Soprattutto se non devo farlo io, sono sicuramente d'accordo. Ah, ok, però tu ti metti in poltrona con la tecnina che va in sottofondo alle 9 del mattino e invece di andare sui campi ascolti Lorenzo che legge Stide sotto sulle basi tecno. Ma anche qualcun altro. Nel senso di non Lorenzo, può leggerlo qualche altro compagno o compagna. giustamente. Comunque ti ho bloccato, Gulli, mi stavi già dicendo, chiedendo qualcosa, non vorrei mai frenare questo flusso. Ma fallo sempre, tu, sì, ogni volta che parla, frena mano totale, paracadute. Ma no, ma volevo iniziare da qualcosa di banale. Cioè, cosa stai facendo oggi? Perché poi Lorenzo ha una domanda seria, perché non è una persona seria, a differenza mia. Come sta andando lì da te in questi giorni? Cosa stai facendo? Se sei d'accordo con riprendere finalmente le attività produttive, la nostra vita di tutti i giorni, 4 di maggio. Una roba così. Ma sì, sta andando. Adesso ha fatto 2 o 3 giorni di pioggia, per fortuna, ci voleva, e quindi le piante sono belle esplose, e poi c'è tutta la solita tram tram dell'orto, ovviamente, e quindi oggi giornata borlotti. Oh, attenzione, raccolto. Borlotti messi nel campo, quindi le proteine senza sfruttamento animale ci sono lì che crescono. Ma quindi i borlotti non nascono già in vasetto con quella salamoietta strana etichettati? Sì, io ovviamente ho piantato i vasetti. Ah, ok, l'ha piantato la latta. Dei piccoli vasetti, certo, sono piccoli, grandi come la... Esatto. Tipo, hai presente il ditalino quello che si usa per cucire? Sono come grandi dei... così, li metti nella terra. E poi loro crescono. Sì, poi ho fatto l'acquario con il tonno in scatola. Che comunque però... Zona Rossa contagia, Zona Rossa contagia, deliri... Assolutamente, assolutamente. No, vabbè, dai, Lorenzo, forza, via. Di già. Pensato, ma no, sì, no, io voglio, sì. aspetta, perché abbiamo chiesto della giornata, ma durante la settimana qua ha fatto un freddo becco, è tornata una pioggia per due giorni, una rottura di palle. Io ero contentissimo che oggi fosse tornato il sole, invece da te? Ma da me oggi è stata una bella giornata di sole, con un bel vento di tramontana. E stasera fa freschino, sì. Ieri ho anche acceso la stufa di nuovo, anche l'altro ieri forse, adesso non mi ricordo. Hai capito. Comunque sì, comunque il clima con la pioggia è cambiato, però ci voleva perché era tutto troppo secco, cioè camminavi nel bosco, dico se perché noi ci atteniamo alle regole nel bosco, non naturalmente, ci mancherebbe che noi contravveniamo le disposizioni. Adesso lo diciamo per la Digos che ci ascolta. Salve. No, comunque a parte le battute, sì, ci voleva sta pioggia. E poi oggi invece ho fatto una roba molto interessante, secondo me, che però insomma esce fuori dal campo della natura da coltivare, che è stato preparare il prossimo video, che è delle pillole di antropologia, che sarà un suppostone più che una pillola, perché durerà molto di più. Sfonderà i 12 minuti probabilmente, quindi supererà i 20 probabilmente. Quella. Ma perché vuole motivo particolare? Perché è stata una cosa doppia, quindi fatta con un mio caro amico e antropologo che è un amazzonista e che ha fatto anni e anni di ricerca sul campo in Amazzonia, nelle comunità appunto urarine in questo caso preciso, e abbiamo fatto una chiacchierata su come si vivono la pandemia, la repressione, il Covid-19 e le popolazioni indigene dell'Amazzonia, perché Madonna, insomma, che un po'... figata. E quindi si parla direttamente con uno che sta là, oltretutto lui è lì, in realtà non là, nel senso che lui è lì ma non è in Amazzonia, perché insegna il semestre e insegna, doveva insegnare antropologia a Lima, all'Università di Lima, però insomma lui si è fatto veramente più di 9 anni di etnografia, parla le lingue indigene, cioè insomma è un grande, e quindi ragioniamo un po' sulla questione appunto attualità e popolazione indigene, quindi secondo me molto molto interessante, forse sarà la più interessante, e in più si ragiona anche su che cosa possiamo apprendere, comprendere e cambiare dalle visioni del mondo dell'Amazzonia peruana, noi occidentaloni, e con tutte le critiche che ci possiamo fare, però noi siamo abituati a questo standard di vita europeo, e quindi vedere invece come ci vedono gli altri. Bello, è stata una super chiacchierata, oltretutto una chiacchierata da 2 ore, non potrò metterle tutte, se no non lo guarderebbe veramente nessuno, però adesso ci lavorerò per tagliuzzarlo e secondo me potrebbe essere una cosa interessante. Ma io comunque, cioè, continuo a domandarmi come fai a fare lezioni da 2 ore se in video di 10 minuti io devo fermarlo 7 volte per prendere appunti, perché tutte le frasi, cioè devo scrivere tipo tutte le frasi che dici o elaborare quello che dici nelle frasi per metterlo per esteso. In 2 ore non so come facciano gli studenti a farcela, cioè a sopravvivere cerebralmente, ma vabbè, problema mio, livelli di attenzione. Vabbè, dai, ma sono semplici, dai, non lo so che lo dici perché, insomma, bisogna tenere attenti tutte quelle migliaia di persone che ci stanno ascoltando. Solo? Tendenzialmente non è vero, dai, le capisci bene. No, ma per capire si capiscono, però sai cos'è? Che tendenzialmente i professori quando andavano all'università anni fa, quando avevano ancora un cervello, cioè ci mettevano 40 minuti. Per dire il contenuto che tu dici in 10 minuti, per cui i contenuti erano diluiti. Devo parlare più lento. È contenuto concentrato in poche frasi che diventa difficile da assorbire, perché devi stare attento a tutte le parole che vengono dette. Invece tendenzialmente il cervello dello studente è capace di attivarsi quei 10 secondi ogni 3 minuti, per cui capta le poche parole e poi prosegue, skippa ai 3 minuti successivi. Io quando ascolto Guglielmo e penso al mio percorso mi sento atipico. Perché, in che senso? Perché a me le sue lezioni arrivano così, come un pacco regalo. È la malta. Dopo che hai fatto un po' di intonaco, la malta entra nel cervello tramite le narici e blocca quelle. Andrea, cosa fai il 25 aprile? Eccolo là. Cosa fai sabato? Guarda, questa è veramente una brutta cosa, nel senso che il 25 aprile per me è una data particolare, cioè per tutti noi è una data particolare, però non vi nego che Adesso non sto a tirare il pippone e tutto, però dopo la puntata che abbiamo fatto la settimana scorsa, insomma, essendo uno che crede in un antifascismo di un certo tipo, le ricorrenze, la festa con tutta la gente varia di merda anche che scende in piazza, mi sta un po' sulle scatole. E invece, devo essere sincero, che il 25 aprile per me è un po' una data in cui c'è una, è come se fosse il Natale per una famiglia normale. Nella mia famiglia, che è una famiglia particolare, il 25 aprile era proprio la giornata in cui ci si incontrava tutti in piazza, quindi anche se non mi piaceva vedere il PD, la gentaglia varia che c'era il 25 a Milano, il 25 per me era proprio una giornata in cui ammetto che andavo alla manifestazione ufficiale, poi magari facevo partigiani in ogni quartiere, cose varie, però comunque andavo alla manifestazione ufficiale e incontravo da tutti gli amici della periferia alla zia, lo zio, il cugino, il fratello, la mamma, e quindi era un po' questa cosa qua. E il pensiero che comunque, anche che sei una carnevalata, tu ripeto, tutte le critiche non sono qua a usannare quella giornata, quel corteo di Milano, intendo, però comunque mi mancherà, perché era proprio la cosa divertente. Di ribeccare i bambini, tutti quelli che hanno figliato, quindi i bambini, le cose, poi si andava a fare l'aperitivo tutti assieme, poi si andava a più o più, insomma, quindi sì, devo ammettere che un po' mi piglia male. Quest'anno non sarei venuto a Milano in realtà, perché volevamo fare qua una cosa di sentieri partigiani qui dove abito, e poi c'era un pranzo in mezzo ai boschi e non si può fare niente, quindi niente. Cosa farò? Boh. Che palle. Non so, io non sono molto preso bene dalle robe, cioè non sono contrario, anche qua ognuno fa quel cacchio che gli pare, però considerate la mia situazione, io sono in cima a un cucuzzolo, non c'ho nessuno vicino, non è che sono in una via di un quartiere popolare, certo. Che cazzo faccio, metto uno striscione, sì, lo guardo io il cinghiale e il drone del governo che controlla, che salutiamo, cioè, alla fine non è che sì, magari lo faccio anche, come c'ho la roba notata fuori dal balcone da quando vivo qua, però cioè è veramente abbastanza velleitario, quindi cosa faccio non lo so sinceramente, cioè non so se farò qualcosa di delle varie che sono state lanciate e cose varie, probabilmente mi farò una passeggiata, andrò in cima ai monti e portati la Gionda, non si sa mai che magari passa un uccellino meccanico da tirar giù. Esatto, almeno esatto. Un po' di campo. Ma io qua, quando vado nei sentieri comunque ho sempre almeno il macete da queste parti. Come la fai cruenta tu la cosa? Ne ho già visto uno in settimana. Ma perché qua il bello è che non è, cioè, senza nulla togliere la bellezza delle Alpi, anzi che sono sicuramente più belle di queste montagne, io le adoro le Alpi, però qua ci sono un sacco di sentieri che non usa nessuno e quindi sono pieni di rovi, ti devi veramente portare il macete perché se no non riesci a passare, almeno che non fai proprio i sentieri ufficialissimi. Tendenzialmente qua la situazione è bella selvaggia, perché non sono battuti questi sentieri. Certo. Dai, quando riaprono le cose facciamo trasferta a Zona Rossa da Andrea, andiamo a trovarlo, gli portiamo il vino. Ma guarda che non è che, cioè, tu ti sei dimenticato un particolare, Andrea sta accettando di parlare in radio, soprattutto perché noi andiamo a fargli, cos'erano, 7 quintali di legno. Ah già, giusto, è vero, la prima esatto. Puntata, hai capito, è vero. Questo è tutto uno scambio. Questo è tutto uno scambio. Ho già oleato la motosega. Cioè, siamo pronti, siamo facendo... pronti. Cioè, io di legna me sto facendo comunque, perché non so se fidarmi bravo, di Gullien Friends, però no, in realtà io, giusto perché non vorrei mai essere poi infamato da qualcuno che ci ascolta, io prendo legna soltanto degli alberi già caduti, non tiro giù alberi, però ce n'è talmente tanti, cioè ieri il vento qua era 90 km/h, Madonna, e quindi ha arato il bosco, esatto. E quindi c'è, in realtà, di alberi abbattuti ce ne sono un sacco che cadono naturalmente ed è assurdo. Magari ti devi fare un po' più di sbatti, perché è ovvio che buttare giù l'albero di fianco a casa è più facile, però non lo faccio ovviamente. Beh, allora scaldiamoci le mani, Guglielmo. Vai, esatto. Ma siamo pronti. Che come minimo io e te dobbiamo salire, quindi io, te, macchina, asce, maceti, roncole e magari quell'altra motosega se serve, se no no, sono tra le nostre mani. No, non portatevi niente, che ci manca che vi fermano e vi danno armi. Esatto. Scusi, io. Ma quella non c'è bisogno. Ah, ma lei è quel Corradi lì, c'è miseria. No, vabbè, magari saliamo anche un po' di più, così poi abbiamo la scusa per fare una diretta radio a casa di Andrea mentre facciamo la legna noi e lui ci guarda. Esatto, al posto nostro. Ma allora, alcuni passi indietro. Vabbè, secondo me sarà il caso prima o poi, ma non lo facciamo adesso, di parlare di pandemia, nel senso che, cioè, nel senso, se come antropologo io penso che il livello, cioè la questione della malattia, del malanno, quell'accidente non prevedibile, invisibile, che coglie gli esseri umani, io immagino che l'antropologia ci abbia studiato un po' a riguardo, perché credo che sia una delle quelle cose più antiche, ataviche, che l'uomo ha, è la paura della morte silenziosa, il malanno, che cos'è, come mai mi ammalo. Bravo, ma è Gulli che sta parlando, avete campionato la sua sta voce? Leggendo, no, un gobbo in fondo all'aula che sta mandando un autore. Abbiamo noleggiato una militante dal Barahonda che ha la mia stessa voce, mi fa la controfigura in radio. Funziona così. A Segrate sono tutti bravissimi, salutiamo le compagne e compagni del Barahonda. Ciao. Vabbè, questo è un tema a parte. Secondo me Lorenzo voleva farti una proposta scomoda per il primo maggio, perché non sai cosa fai il 25 aprile, ma sicuramente ora saprai cosa farai il primo maggio. Allora, praticamente a noi piace fare le cose sempre un po' folli, poi magari non le facciamo, però poi le facciamo lo stesso. Vogliamo fare una diretta di 12 ore, che parte dalla mattina, arriva fino alla sera, forse le sfonda, se le sfonda speriamo, e vogliamo coinvolgere tutti i programmi di Radio ZM, compreso Zona Rossa. Che sono tre. Tre nella radio di fianco, sei, però niente. Quella del Barahonda. Esatto. E la punta dell'iceberg di Zona Rossa, che è un iceberg rosso ovviamente, è Andrea Staide. Quindi ci chiedevamo se questa punta dell'iceberg volesse dare un contributo, ma siamo disposti a rinunciare al mercoledì per avere il venerdì, perché l'uno cade di venerdì, quindi sei abbonato a mercoledì sera e a presentarti venerdì. Cioè, di sopportarci un giorno in perché io già sapevo che era una baffa, e invece ho giocato d'anticipo. Siamo degli idioti, dobbiamo proporglielo mercoledì prossimo. E non è ancora arrivato il pippone mio della sera, perché deve arrivare ancora quello. Ci sono pronto. Allora, quindi mettiamo in magazzino primo maggio, ci siamo, poi ci accordiamo, facciamo magari una roba un pochino più lunga, un pochino più carina, magari parliamo di discorso che faceva Gulli però della pandemia. Esatto, anche quello. Ah, ok, va bene, parliamo di pandemia primo maggio. No, non parlare quello il primo maggio, no, volevo dire una roba che in realtà 3-4 giorni fa ho pubblicato un video, non sul mio canale, ma su un altro, l'ha fatto una rivista che si chiama Matrica, dove io e un biologo parliamo di trauma, di paura, di morte, di cos'è l'essere umano, e lo faccio, però io dico poche cose, in realtà quello che parla è quello bravo, è Gerry Diamanti, che è un appunto biologo e che si occupa proprio di risoluzione di trauma e costruzione delle paure, cose varie, e facciamo un'ora di dibattito, di discussione su questo tema proprio. Yeah, fantastico. Perché altro... E si chiama Esseri umani al tempo del Covid-19. Magari lo rimandiamo. Dici che possiamo farlo? Sì, certo, sì, è pubblico, è su YouTube. Fantastico. No, perché sai cos'è che mi hai fatto venire in mente? Quando hai parlato delle tribù, scusami, che forse non sono tribù, dell'Amazzonia, comunità. La questione della comunità dell'Amazzonia, è che effettivamente, dico questa cosa ovviamente sempre da uomo occidentale bianco che pensa di essere più avanti degli altri, quando invece non è così, però tribù che vivono più o meno comunità che vivono più o meno nello stesso stato da millenni, che quindi non hanno sviluppato come noi l'illusione di aver superato quello stadio dell'umanità per cui basta una malattia per morire, come affrontano questa cosa? Magari l'affrontano, cioè io posso credere, l'affrontano molto meglio, perché è normale, perché tendenzialmente non hanno... Ma più che altro la risposta che mi ha dato oggi Emanuele Fabiano, questo antropologo di cui parlavo prima, è la fine del mondo, loro ce l'hanno avuta, la pensano dal XVI secolo, cioè da quando noi abbiamo invaso con acciaio e malattie la loro terra. E quindi le idee su morte, fine del mondo e pandemia ce l'hanno bella chiara e sanno che siamo stati noi occidentali. Esatto. Beh, è bello incarnare la morte per un'altra popolazione. volevi dire qualcosa di serio, Lorenzo? No, poi stavo riflettendo, pensa poi a tutti gli articoli che escono nella nostra nazione. Molto. Vabbè, ragionavo oggi e volevo condividerlo, l'ho già fatto con un'altra ospite a cui abbiamo telefonato prima e ho ricevuto una risposta. Adesso voglio provare, dopo un mese e mezzo in questa situazione, ormai quasi due, ad andare avanti in questa indagine. Mi sono reso conto, parlando con svariati gruppi di persone su Zoom, con svariate altre tante persone via telefono, che il tema della socialità è all'ordine del giorno, si ha paura di perdere il contatto, si ha paura di uscire da questa situazione, diciamo, perdendo qualcosa. Ma oggi non so perché mi è venuta questa scheggia nel cervello, in cui per l'ennesima volta parlavo con l'ennesima persona che mi diceva: non vedo l'ora che In tono positivo torniamo a quel contesto in cui ci riprendiamo magari i corpi, le piazze e il toccarci proprio, il ritrovarci, non è che ci potrebbe essere un ritorno ancora più positivo rispetto al prima? Mi spiego meglio. In una relazione composta da due nuclei, se un nucleo lascia l'altro per motivi esterni al nucleo stesso, il ritrovarsi poi è ancora più bello. L'esempio della ragazza che parte, va a lavorare dall'altra parte del mondo, torna dopo 3 mesi, sei contento che torna. L'amico che è andato in viaggio di lavoro, va via per altrettanti mesi, torna, sei ancora più felice di passare del tempo con lui. Un'amicizia che quotidiana, che magari si perde, ritrova delle cose più, come posso dire, più stimolanti per ritrovarsi. Cosa ne pensi? Ma sì, ma io penso che sia una cosa sensata, è la visione ottimistica, diciamo, della situazione. E sì, io credo che se basti pensare a quello che poi era un po' il concetto di comunità e di incontro che c'è stato dopo le grandi guerre, no? Che sicuramente era amplificato. A me quello che spaventa è un po' il dominio ipertecnologico di questa nostra società turbocapitalista, no? E quindi il problema, secondo me, da affrontare sarà anche di stare attenti e di non perdere niente di quello che avevamo prima e, come dici tu, addirittura di potenziare questa cosa. Io credo che, non so, anch'io parlando con tante persone, interviste, zoomate, cose varie, ci sono un sacco di cose positive in questo momento che stanno succedendo anche nelle piccole cose, no? Dai condomini dove la gente non si conosceva, non si parlava, che hanno organizzato, dai gruppi di lettura, all'aperitivo distanziato nel cortile, dove comunque la gente comincia a riguardarsi in faccia e a parlarsi, no? Si spera di non perdere questa cosa e anzi di amplificarla. La paura che tutto torni come prima o ancora peggio c'è, però sì, credo che sia sensato il discorso che tu hai appena fatto e io mi auguro proprio che sia così. Io farò di tutto per far sì che questa cosa avvenga nel mio piccolo, per esempio anche col discorso soltanto con gli studenti, quello che si dice è se si ritorna prima che finisce l'anno accademico, anche se purtroppo non penso, di fare proprio degli discorsi di frequentazione, non tanto nell'aula universitaria quanto fare le lezioni nei parchi, andare in giro a guardare le cose, una roba che per esempio interessante secondo me si potrebbe fare è proprio quella di fomentare questo discorso di scambio incontro nel dopo, no? E poi soprattutto la cosa che più mi preme è il fatto che non si debba, ma insomma lo stanno dicendo un po' tutti quelli del nostro giro, del nostro mondo, che la normalità era il nostro problema e dobbiamo cercare di non tornare a quella normalità e fare di tutto per far capire a più persone possibili che è proprio il nostro modo di vivere che ha generato questo problema. Non dico che il virus non c'è, il virus c'è, sarebbe troppo facile dire che il problema è il virus e il capitalismo, che è sicuramente vero, ma non è soltanto quello, ci sono tante cose che dobbiamo ripensare, insomma. Bene, benissimo. Grazie. E il punto era proprio quello, in realtà, è anche uno sforzo, nel senso di impegnarsi a far sì che questa cosa accada, più che esatto. Aspettarsi che accada e basta. Ma questo sempre, no? Non dobbiamo mai pensare di aspettare le cose. Come diceva la mitica Emma Goldman, le libertà ce le dobbiamo prendere, non è che dobbiamo aspettare che qualcuno ce le dia, non dobbiamo chiederle, dobbiamo assolutamente prendercele. Questo vale sempre, soprattutto in un momento come quello che sarà la fase 2, la fase 3, la fase 4, no? Come il discorso, per esempio, stupido, ma piccolo, della mobilità nelle città. Ma va che è meglio andare in giro in bicicletta a piedi, ecco, ripensiamo le città senza automobili, già questo potrebbe essere una cosa interessante. Un cambio devastante nella quotidianità di questo mondo. Radicale, sì. Completamente. Sì, perché sarebbe molto interessante e non è neanche una cosa, se ci pensate, rivoluzionaria, perché questa cosa qua non mette neanche in questione un determinato tipo di sistema, cosa che io voglio fare ovviamente, però già sarebbe qualcosa secondo me se si cominciasse tutti, anche quelli che non la pensano come me, come voi o come qualcuno che ci ascolta, però che non prende più la macchina per fare dei piccoli spostamenti, che altro che zona, com'è che si chiama? La zona C, no? Com'è che a Milano si chiama? BCB, ma devono esserci dall'A alla Z, i blocchi totali delle automobili, soltanto chi ne ha estrema necessità, soltanto chi ha problemi reali di mobilità, e gli altri ricominciano a usare i corpi, appunto, non soltanto per incontrarsi, ma anche per muoverli questi corpi. No, che infatti poi la cosa sarebbe bellissima che fosse tutto uguale, cioè tutto uguale, no, la cosa assurda è che in questo momento girare prima anno è bellissimo. Oggi sono andato perché ero al servizio come volontario, per cui la questura in ascolto non se la prenda poi, ho girato per un po' in bicicletta in estate del nostro quartiere ed è bellissimo perché è primavera, sì. Non c'è in giro una macchina, è silenzioso, la temperatura è perfetta, dovrebbe semplicemente esserci il blocco totale delle auto sempre, i mezzi andrebbero come vanno adesso, che vanno come dei treni, penso che il 15 ci metta 10 minuti da Rozzano fino a Duomo, avanti e indietro, è tutto meraviglioso perché poi non ci sono le macchine, è appunto il problema. Ma poi noi, secondo me, un'altra cosa interessante che si potrebbe proporre, sempre come cosa quasi da moderati, che però in realtà potrebbe essere interessante, è di fare dei blocchi totali una volta al mese, cioè per due giorni al mese, se non di più, anche ma per quanto mi riguarda, cioè proprio non ci si muove, cioè ti puoi beccare con gli amici, quello che vuoi, che stanno vicino a te, cioè si sta più fermi e si tiene tutto spento, per non parlare del fatto dell'assurdità di supermercati aperti 24 ore, di domenica tutto chiuso, certo. Quello sempre, e sarebbe molto meglio, cioè organizzarsi in modo differente. L'altra cosa positiva, che non so se è vero perché l'ho letto credo sul Corriere, quindi probabilmente è una fake news, però tendenzialmente questa cosa che dà una percentuale pazzesca, tipo il 70% in più degli italiani, però 70% rispetto a chi è che cosa non lo dicevano, però comunque 70% in più di persone che si coltiva da mangiare nell'orto, nel balcone, sì. Cioè anche questo, pensare molto, di tornare a... Come, scusami? Sei riscoperta molto questa cosa, ha bruciato parecchio questo fatto di non avere da mangiare, il pericolo che non ci sia da mangiare. E questa cosa qua secondo me deve farci pensare e farci tornare a ripensare proprio la possibilità che anche in una città ci possono essere degli orti collettivi, degli orti urbani, ma non velleitari, non di protesta, che sono importanti, anche qui non voglio dire niente, critical garden, tutto bellissimo, no, ma io intendo proprio che invece che avere parchi insulsi, bruttissimi, tutti uguali, ripensiamo il paesaggio proprio in un altro modo, che sia molto più, oltretutto ecocompatibile, perché i parchi tutti uguali con l'erba tagliata alla prata inglese sono devastanti anche per l'ecosistema, e invece che ci siano broccoli, che ci siano fagioli, che ci siano cose che sfamino le persone con un lavoro comunitario. Questo potrebbe essere una cosa che, per esempio, vari gruppi, per esempio ZAM nel suo quartiere, potrebbe pensare che nel dopo una delle cose da spingere sia proprio l'occupazione di quello che Clément chiama il terzo paesaggio, quindi tutti quei luoghi più o meno abbandonati, non tanto per farci soltanto una festa che la facciamo bellissimo, ma proprio ricoltiviamo tutto, cioè, e rimpariamo a farlo, perché sì, chiaramente è la cosa che manca. Cioè io per esempio non so distinguere un broccolo da un cavolfiore tuttora, penso che se me li fai mangiare dico anche che sono buoni, buoni questa zucca, no, però anche lì, cioè, queste cose sono dei limiti perché non abbiamo gli strumenti, nel senso che abbiamo imparato a usare tutti gli oggetti tecnologici dai 13 anni fino ai 18 senza nessun tipo di problema, la terra non dico che è uguale, però sono sempre strumenti che ti vengono dati o che percepisci dagli altri e che poi attui. Quindi certo, è un discorso che io colgo molto bene, nel senso che se ne parla, ovviamente è logico che se ne parli di questa cosa, di riprendersi la terra, però io lo faccio anche da un punto di vista abitativo, nel senso che a me prenderebbe proprio anche spostare il mio corpo in questi luoghi per abitarli, oltre che andarci a lavorarli. E basta. Guarda, che puoi anche dire che non hai soldi per l'affitto, senza scomodare discorsi e linguaggi così alti, e dillo che sei un poveraccio, mica nessuno si offende, mamma mia. Niente, dobbiamo fare le occupazioni abitative, Andrea. Conosci qualcuno per caso che c'ha una casa, la lamiera la tira giù? Dai, andiamo io lui col flessibile un attimo, e via. E tac. Poi diciamo che è colpa. Ce l'ha detto Andrea, esatto, l'antropologo. Avete presente quella puntata? C'è anche il podcast. Esatto, tutto ha scritto lì un dentro. Libro, abitare illegale. Allora io ho capito che poteva abitare illegale. Allora, cosa volete da me? Me l'ha detto lui, ha studiato. Vabbè, scusate, stavate dicendo cose troppo serie, bisognava un attimo alleggerire. E no, a questo punto, allora, vabbè, le cose che hai detto naturalmente hanno un milione di sensi, hanno assolutamente senso. Stavo dicendo una frase che non aveva senso. io onestamente ho percepito che un intellettuale riusciva a consigliarci, a darci delle idee per una futura azione politica, e posso dirti che giusto appunto oggi stavo finendo di lavorare del legno, perché invece noi davanti a noi abbiamo un ex parcheggio della locale che stiamo cercando di tramutare in un giardino condiviso, con anche la possibilità di coltivare. Quindi abbiamo preso dei fantastici bancali, facciamo dei lavori con del legno di recupero e li facciamo diventare delle piccoli orti o dei grossi vasi per avere produttori per permacultura, noi. Permacultura, certo. Esattamente, un po' più in là c'è un altro orto e vediamo. Comunque sì, effettivamente davanti a Zamba abbiamo la fortuna di avere un bel pratone grosso, chissà che magari da tutto questo non nasca un progetto di autocoltivazione del verde locale, assolutamente. Va bene, allora, più o meno ci siamo. Secondo me bisognerebbe lanciare qualche altra velata minaccia verso il 1° maggio, tipo ti teniamo al telefono 6 ore, parleremo di qualsiasi devi cosa. Scegliere una playlist di 12 tracce, esatto, cose del genere. Esatto, cose così. No, vabbè, ci sentiremo nei prossimi giorni per definire soprattutto l'orario in cui vuoi essere disturbato da noi, perché giustamente poi avrai anche magari voglia di farti gli affari tuoi. E basta, a questo punto ti chiediamo della musica, ma vedo Lorenzo che è da 10 minuti tipo che sta sclerando perché il computer non ne vuole sapere, dagli una mano. Quindi ti chiediamo una canzone, vediamo se ce l'abbiamo in database e poi boh, non so. Se deve essere in database significa che avete già scaricato? È molto capiente, quindi buttati, vediamo. Ci vediamo se ce l'abbiamo. Chissà, potremmo provare, vabbè, facciamo un grande classico. Rage Against the Machine c'è qualcosa, immagino. Sì, assolutamente sì. E possiamo fare Killing in the Name. Oh, attenzione, attenzione. Devi sapere che noi, tra le tante varie cose che siamo, oltre a un presidio di sostituzione etnica, siamo anche una seconda casa per compagni che vengono dalle Filippine. Nel senso che abbiamo con noi due fratelli filippini che facevano parte del fronte maoista nelle Filippine. E uno dei due, il nostro caro Fergi, è un mega appassionato di Rage Against the Machine, quindi ne abbiamo una cifra di... E allora questa c'è perché è troppo... Assolutamente. Sì, c'è, è una hit. Sì, dai, ce l'abbiamo per pure in live. E allora... Andrea, grazie. Ci risentiremo verso il 1° maggio. Primo maggio. Ci risentiamo il 1° maggio. Buona serata a tutti. Ciao, ne? Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Don't you die, wearing a badge and your shorts are white. What you buy? Eccoci tornati su Zona Rossa, il programma più ascoltato. Madonna santa. Non riesco a capire se fa più ridere il fatto che è evidente che facevi finta o che cosa. Ascolta, senti, se... evidente, no, non è evidente sei niente. Sei capace di recitare sono andato con i tuoi amici quando fa le zoomate, pusillanime. Attenzione, attenzione, ebbene, vi ricordo sì, gli open mic di tempi diversi ogni due sabati su un evento che trovate su Facebook, poi condividiamo tutti i link. Facciamo un po' di pubblicità intanto che vanno avanti queste cose. Ma peraltro, scusami un secondo, quindi c'è libera partecipazione? Cioè chiunque può venire ad ascoltarvi anche se non fa parte? Sì, sì, sì. Un vostro evento no, interno. No, è l'evento su Facebook che io giro su tutti i vari canali, giriamo tutto. E sull'evento pubblichiamo il codice di Zoom, è aperto a chiunque. L'altro, yeah. Di solito facciamo tra le 50 e le 60 connessioni ogni sabato. Storia. Ma e c'è anche gente che voi non conoscete? Di solito. Cioè, sì, c'è sì, pubblico? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Potrebbe arrivare tipo il fascio di turno a cantare Faccetta Nera e lì dovremmo capire cosa fare. Però è veramente aperto Zoom, a chiunque. Sì, fate sì, saltare in aria. Cerchiamo di tenere ogni volta una scaletta, nel senso che ci sono degli ospiti. La puntata è dedicata a un tot di persone. Non per forza uno solo, e magari loro li facciamo non partire per forza per primi, però tra i primi. Certo. Perché poi nel momento in cui la chat la usiamo come il foglio di prenotazioni, perché l'open mic nei locali, quando lo facevamo, noi offrivamo una boccia di vino a chi leggeva e chiunque poteva andare a leggere. L'ordine si decideva come quando facevi gli esami nelle università pacco che ho fatto io, dove arrivavi e ti segnavi su un foglio, il primo che arriva meglio alloggia, l'ultimo si becca all'ultimo posto. E quindi questo lo facciamo via sulla chat di Zoom, uno si prenota, abbiamo due compagni che si occupano di dirigere tutta questa cosa e rifresciare ogni volta la chat. Compagni, compagni, operai. Grande Francesco che ogni volta fa il nostro Jerry Scotti della situazione. E poi sì, fondamentalmente è quello, un tot di persone che a caso possono collegarsi, leggere o anche soltanto ascoltare, non c'è bisogno... Che come storia. Gli open mic che facciamo, viene un sacco di gente... Leggiamo in 20 su 100 partecipanti, gli altri 80 ascoltano e si godono la serata. Figata. Sì. Va bene, allora abbiamo fatto pubblicità a tempi diversi, tra l'altro se non sbaglio 20 diversi va in onda, sì, podcast. Va in onda su Onbox Radio una volta ogni due settimane e noi lo ripompiamo come podcast una volta alla settimana, il giovedì. Questo giovedì ci sarà la terza puntata. Allora. Riproviamo con una chiamata che prima non c'è riuscita. Attenzione. Io l'avevo avvisato che lo richiamavo. Una voce inconfondibile ci risponderà da quel di Buccinasco Place, conosciuta come Buccinasco Beach, ridente località sulle spiagge dell'assolatissimo Naviglio, assolatissimo e ricco di zanzare. Benvenuto nel servizio. Niente, questa persona si rifiuta di risponderci al telefono. Ci abbiamo provato, magari nei titoli di coda di Zona Rossa. Ma ha parlato prima, ma secondo me non è ancora il momento di chiamare colei che sola può dare sete alla nostra acqua di volare di conoscenza. Non lo so, mi sfugge, potremmo parlare con lui. Sì, ormai l'avete capito, stasera noi volevamo disturbare tutta quella gente che viene a fare sport a Zam. Pensate quanto io possa essere utile in questa puntata. Oh, chiamate in arrivo. Ciao, e Claudio. Benvenuto su Radio ZM, Claudio. E allora come stai? Come state? Ah, prima tu che sei l'ospite, poi ti rispondiamo anche noi. Io bene, dai. Mi difendo. Sono ancora impazzito. Ok, che era la cosa più difficile. Ma Noi sì e l'abbiamo già superata. Esatto, siamo già tornati noi riusciti un'altra volta. Ma allora come va Buccinasco? È tutto fantastico? Buccinasco è tutto fantasticamente fermo, morto. Non si muove niente, però sì... Diciamo che la natura si è ripresa i propri spazi, ecco. Vedo un sacco di animali in giro. Questa è una bellissima cosa. Caprioli per strada, sì. Cervi, cerbiatti. Sì. Lepri che riprendono parcheggi, sì. Occupano storia. Parcheggi. Lepri che occupano parcheggi. Che storia. Bellissimo. Ma invece, scusami, un po' di tempo fa una tua compaesana, nota ai più col nome di Silvia, compagna di Zam, già da tempo in memoria, ci riferiva che a Bucinasco ci sono le macchine della polizia che passano con gli altoparlanti tipo Buzz Raders a urlare state in casa, state in casa. No, in realtà io non ho avuto il piacere di assistere a questo scempio, ma accorsi così. Tra l'altro c'è una macchina che non si capisce, addirittura, cioè, mi pongo questa domanda, c'è questa Fiat bianca con due strisce, una blu e una Bordeaux, con scritto Associazione Carabinieri, una roba del genere. Oh mio Dio! Con su due 85 anni, cioè faremo del cielo, morire, che vanno in giro questo megafono a dire di stare in casa. Probabilmente loro stanno salvando l'umanità. Loro non lo sanno ancora, ma stanno salvando l'umanità dall'estinzione. Non ho vissuto il dopoguerra, ma penso che sia tipo un coprifuoco. Sicuramente. Ho vissuto così, Che figata. Ma senti, allora, noi non sono sfuggiti i fantastici video che hai fatto qualche giorno fa, quindi adesso ci devi raccontare per filo e per segno perché hai fatto quei video, così anche Lorenzo si convince e inizia a fare ginnastica, che sta diventando una mozzarella d'uomo orrendo. Ma l'idea dei video in realtà non è partita proprio da me, ma era per cercare di mantenere una continuazione al lavoro che stavamo svolgendo come centro diurno, come educatori qua sul territorio, qua Trezzano, Corsico, Bucinasco. E alla fine ha preso piede, in realtà, sia con questi video che registriamo 3 a settimana, in cui abbiamo scelto di prediligere la parte di fitness, anche perché per gli spazi, perché non tutti hanno spazi, per cui, cioè, ognuno ha le sue situazioni, la sua casa, quindi abbiamo pensato che bastasse un asciugamano e un metro quadrato, due, e ci inventiamo, mi invento alcuni esercizi, alcuni circuiti da fare a corpo libero, e sta prendendo piede, in realtà, qualcuno si segue. Sì, le però, views decollano. Sì, perché è nato comunque come è nato per il centro diurno, quindi per lavoro, però poi hanno preso anche altre persone da fuori che mi chiedevano, io gli ho inviato il link, quindi... Tipo Graziano, probabilmente sarà lì che si allena di brutto, a casa tra le sue sculture in bronzo. A Castel Sardo, beh, lui si allena con una bell'aria sicuramente. Vabbè, ma tu invece dov'è che ce l'hai attaccato il sacco da picchiare? Che lo sappiamo che devi picchiare prima o poi, perché sennò ti scleri male. E ogni tanto viene qualche vicino in box perché senti i colpi, e adesso ho riattaccato, fortunatamente avevo ancora un sacco. E niente, poi mi nascondo in qualche cantiere abbandonato a Bucinasco a fare le trazioni. Grande. Novello Rocky Balboa. Sì, sì. Ma scusa, ma invece oggi tu... In questo periodo stai lavorando? Stai riuscendo a lavorare da Zoom? In questo periodo stiamo lavorando con le videochiamate, con Skype, con Zoom, con... Non mi chiedere cosa penso di un intervento educativo fatto online, però è meglio di niente in questo momento. Meglio di niente. Certo. Pensa a te, le compagnie di questi cosi in questo momento... Tutti Skype, sì. Zoom, cosa stanno facendo? Sì, sono diventati il centro del mondo. Sono diventati. In realtà, se posso dare un più a queste cose, anche se io sono super contro, lo sai Gulli, un po' mi conosci, però almeno la continuità, il farsi sentire, il tenere compagnia, in alcuni casi è molto importante comunque, quindi per il resto non si capisce niente, non si riesce a fare una conversazione, se ci si parla sopra, ci si fa intendere, si fa giustissimo. Certo. Un bel problemone. Però stiamo lavorando per tornare più positivi, esatto. Proviamo. Ma ti hanno già detto, perché adesso ovviamente si fa un gran vociare di riaprire, riprendere, eccetera, eccetera. Tu nel tuo lavoro stai avvertendo che qualcosa si sta riaprendo, ricominciando, o non ancora? Ma no, io penso che noi, essendo connessi alla parte didattica, scolastica, si riaprirà a settembre. Ah, direttamente così. E, non so, magari qualche centro diurno, però se si riesce a garantire comunque le normative, secondo me è un po' impraticabile, soprattutto con i ragazzi. Certo, certo, certo. Va bene, Claudio, allora... Noi a questo punto ti ringraziamo, ma anche se in realtà ci potessi parlare dell'orto, cosa ti sta crescendo nell'orto adesso? Ma infatti, intanto abbiamo fatto una faticaccia a trovare le piantine quest'anno, perché abbiamo fatto un po' di errori con la semenza. No! E, no, però in realtà, a parte la sfiga che le ho messe giù e ci sono stati questi 3 giorni di freddo, beh, c'è un bel pronostico, non abbiamo un cazzo da fare, quindi quest'anno è ordinatissimo l'orto, super tirato, c'è un filo d'erbaccia, cioè, no. Tutti sono tornati tutti in campagna, dai, perché c'è un ritornare in campagna e niente, dai, quest'anno grandi grigliata già, grandi melanzane. Assolutamente ci saremo e partiremo dalla super big mangiata del primo giorno di libertà che stiamo organizzando, esatto. Fuori, cioè proprio in via Sant'Abbondio, esatto, e esatto. Nelle vie limitrofe, perché saremo troppi. So già che la mamma di Claudio parteciperà con 250 kg di cibo misto, parmigiane, polpette, sughi, perché chef provetta, sì, e campionessa. Infatti era invidiosa, voleva partecipare anche lei alla chiamata. Esatto, no. Esatto. Avremo tante mamme che ci aiuteranno a scodellare il cibo. Va bene, Claudio. Allora adesso noi ti chiediamo un brano musicale, qualcosa da ascoltare che mandiamo qualsiasi in radio, cosa, quello qualsiasi che vuoi cosa. Te. Qualsiasi cosa, assolutamente. Madonna mia. Ma non ricordo un brano musicale. Mi ha scelto Justin Jack, ma non mi ricordo chi sia. Justin Jack? Si chiama la canzone? Ma... Yesterday? No. Ma sennò il pescatore out. Tutta la vita. Come, scusami? Il pescatore tutta la vita. Il pescatore di De André? Sì, perfetto. Perfetto, ce l'abbiamo anche in sono un po' romanticone. Nel nostro elenco musicale. Caricata. Va bene, caro. Perfetto. Ci risentiremo presto assolutamente e faremo tanta ginnastica con i tuoi video. A cui faremo una sporchissima pubblicità ovunque. Vi voglio bene, siete un raggio di sole. Anche noi, ciao, Claudio, anche grazie. Grazie, Claudio. Grandi. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao, grazie. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, 2 occhi grandi da bambino, 2 occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. Chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi rischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane, per chi diceva o sete o fame. E fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra di un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Bravo Guglielmo. Ma quanto sei forte in regia. Senti che applausi, senti, senti. Comunque una cosa che ho sempre avvertito nel momento in cui vivo a stato contatto con una persona è che non usi più WhatsApp. No, cioè, vabbè, nel non senso... ci sono messaggi WhatsApp tra me e te, perché siamo insieme tutto il giorno, quindi che motivo ha di scriverti? Per cui però... è facilissimo tornare alla quella cosa un po' di parlare della rava e della fava. Sì, Sapientino colpisce ancora, incredibile. Oh, ma chi ti credi di essere? Ma guarda, non lo so, ma io vorrei partecipare alla lotteria del Sapientino. Ascolta, questa veramente è peggio della mia collezione di francobolli. Non lo so. Io so che se c'è la buona mente, la mia buona mente non langue, anche se in realtà ultimamente langue parecchio. Ma cosa langue? Cosa langue? Che sembra di sentire le formiche al galoppo quando parli. Guarda, io avrei voluto farti una spremuta di zucca per guarire il problema legato alla tua disidratazione da pizza. Ma cosa credi di essere su Radio Cruciverba? Guarda, secondo me tu hai frequentato l'università della sedia. E mentre tu andavi insieme alle gondole sul condominio. Ma guarda, io ti vedo che sei un tipico esempio di infobesità. Queste sono veramente perle di fuffa, Guglielmo. La pianti? Guarda, tu sei venuto, sei uno che gira sempre con pacciocchi e quisquiglie. Ah, è tanta competizione per nulla sta discussione. Guarda, la questione è che tu, cioè, l'unica ginnastica che hai fatto, prima si parlava con Claudio di ginnastica, tu l'unica ginnastica che hai fatto è quella mentale per braccia rubata all'agricoltura. Prima si parlava di istruzione e tu l'unica università che hai fatto è l'università della strada. Guarda che Sapientino colpisce ancora per sempre. Invece era l'università della sedia, quindi ho fatto una gaffa, ho perso hai il gioco. Hai perso! Ho perso il gioco e allora e chiamiamo è lei. Il momento chiamiamo di chiamarla. Lei che ci aiuterà. Perché sì, perché è giusto così, perché dobbiamo. Comunque alla fine ne abbiamo bisogno, ci salva sempre la puntata. Io adesso voglio sapere come fa a trovarci una roba super mega interessante sul tema di stasera che ancora non svegliamo. Ciao, come stai? Bene. Chiara, senti, ma tu questa scenetta ridicola che facciamo tutte le volte di Lorenzo per lanciare la tua piccola rubrica in attesa? La sento purtroppo. E noi speravamo di no. La sento e comunque meno peggio di quando hai detto che quella brillante trovata sul fatto che non vi mandate i vocali perché vivete insieme. Questo era veramente... Non facciamo neanche che ci mandiamo i vocali, non ci mandiamo i messaggi. Cioè, non gli scriva Lorenzo, ci sto insieme tutto il giorno. Massimo manda a fare in quelli. Ma sa che lei è veramente intelligente. Ma vero no? Ma lei è veramente Alle volte ci prova. Lei è l'unica persona che me l'ha detto, evidentemente sarà vero. Probabilmente. Ma da che 30 anni. Va bene, Chiara. Allora svegliamo subito il tema di stasera. Qual è? Svegliamolo. Allora, innanzitutto volevo dire che sono molto contenta che stiamo parlando di questo tema che mi avete suggerito. di cui io non sapevo assolutamente una cippa, e in realtà è una storia fighissima, molto interessante, ma va. Che io banalizzerò a dovere. Oh, giusto, fantastico. Giusto. Come è duopo, io ci tengo. Comunque, allora, spieghiamo per chi ci ascolta e non lo sa, ieri sera a Zam, rispettando tutte le norme garantite, garantendo la serenità di tutti, ci siamo visti Marrakesh Express, un bellissimo film di Salvatore dell'88, esatto, se non sbaglio. Esatto, con Diego Abatantuono e un cast pazzesco. Vedere Abatantuono così giovane è veramente incredibile. Esatto, adesso. La questione è che quindi se loro fanno il Marrakesh Express, oggi non si poteva che parlare di... Parigi-Dakar. Oh, che è proprio lì. Che è attenzione, lì, cioè, attenzione. Attaccato. Allora, intanto partiamo dal presupposto che voi giustamente mi avete chiesto di parlare della Parigi-Dakar, ma in realtà già il nome indica una storia abbastanza contorta, perché in realtà da un bel po' di tempo si chiama Rally Dakar, o semplicemente la Dakar, e ha abbandonato il nome originale perché effettivamente... che diciamo Parigi-Dakar, ma effettivamente non parte più da Parigi da un bel po'. Questo lo sapevo. Detto questo, in realtà da qualche anno non arriva manco più a Dakar, quindi insomma la questione è complicata. Comunque il nome rimane un po' quello, perché da dove cazzo vogliamo a dove ci pare era un nome un po' lungo che suonava male, e quindi hanno deciso di rimanere fedeli alle radici. È presente la Salerno-Reggio Calabria? Non parte più da Salerno, non è la più Reggio Calabria. Un po' così. Come la Bremi, tra l'altro. Bremi, che come ben sappiamo non passa né da Bergamo né da Brescia né da Milano, insomma. Esatto. Ma quindi vuoi... andiamo avanti. Ha fatto un po' come ci pare. Ma quindi vuoi dirmi che quelli che hanno fatto la Parigi-Dakar in realtà si sono persi sulla Bremi, non sono mai arrivati a Dakar? Vabbè, in realtà la Bremi è passa da Dakar, sì. Ok, sì. Praticamente se tu prendi la Bremi arrivi a Milano tanto quanto andare a Dakar. Ci sta. È per quello che costa così tanto, effettivamente, esatto. Sì, in realtà è questa la vera origine della Brebemi. E forse anche per allora, quello che è vuota il martedì mattina, quando i compagni della Pacipaciana ci fanno i video. Esattamente, ma anche il martedì pomeriggio e anche svariate altre giornate, esatto. In realtà. L'unica sua grande fortuna è che tutti i navigatori... ti mandano instigabilmente sulla Brebemi. Sono stati pagati dal potere per mandarti sulla Brebemi a farti vedere quanto sono belli gli svincoli a 8. Sì, no, è vero, te la segnano nell'autostrada della vita, ma è inutile, esci a Paullo. Vabbè. Esattamente. Allora, posto che appunto la Brebemi, cioè la Parigi-Dakar passa dalla Brebemi, se volete vi racconto un po' di storie che ho scoperto che sono veramente una cifra. Vai. A voglia. A partire dalla sua nascita, che è già abbastanza epica, nel senso che la Parigi-Dakar nasce come tale nel 1978. Ah, quindi recente. Nasce dall'... Sì, esattamente. Molto più di altri rally pazzissimi, di cui ho letto anche delle cose, ma se no svarianiamo troppo, però veramente storie di gente pazza e fulminata. Uno di questi fulminati in realtà è questo Thierry Sabine. Tale Thierry Sabine, pilota francese con una carriera sportiva passata nei campionati di turismo e di rally, e con una grande passione per il deserto. Sì. Ora, come nasce nello specifico? Nasce con questo Thierry Sabine che è intento a partecipare nel 77 ad un'altra gara, che è l'Avigan-Nizza, che va dalla Costa d'Avorio alla Francia. Sì. Quindi anche quella una gara non male. Thierry sta appunto correndo questo rally e si perde durante una tappa nel bel mezzo del deserto del Ténéré, che per chi non lo conoscesse è un deserto che va dal nord-est del Niger all'ovest del Chad, per una area complessiva di 400.000 chilometri quadrati. Praticamente il cortile di Zam, insomma. Esattamente. Ora io non so che cosa avreste fatto voi perdendovi in un deserto di 400.000 chilometri quadrati. Bestemmie. Calcolate che l'Italia è 300.000. Ok. Minchia. Quindi è tipo a metà strada fra l'Italia e la Francia. Beh. O più grande della Germania. Beh, facile uscirne comunque. Dietro l'altro. Esatto, io non so sinceramente che cosa avreste fatto voi. Io sicuramente un sacco di cose che forse il radio non è il caso di dire. Invece Thierry, che è il nostro supereroe della situazione, a Thierry viene in mente che sarebbe stata una figata fare un rally al contrario, cioè che parte dall'Europa e arriva in Senegal. Cioè, questo praticamente è completamente scemo, ormai con un'isolazione incipiente in testa mentre la sua macchina sta per finire la benzina, dice: cazzo, però che figata sarebbe fare un rally nel deserto al contrario. Esattamente, pensa, esattamente, pensa non al cervello è un tipo umano. A posto, e il fatto che non sia un tipo completamente a posto è testimoniato anche dal fatto che poco dopo lui dà vita a un'organizzazione, sì, che sarà quella che poi seguirà la direzione della Parigi-Dakar, e la chiama Thierry Sabine Organization, bello, cioè TSO. Tutto torna giusto. Geniale, perfetto. Quando tutto guardi torna, poi dici ah, esattamente, tutto torna. Insomma, tant'è, comunque prima edizione, l'anno successivo effettivamente partecipano 90 macchine, no, scusami, 80 macchine, 90 motociclette e 12 camion. Beh, Madonna, che cos'è? Mad Max? Scusa. Di fare la gara col camion? Esattamente, esattamente. Calcolate che una volta, cioè diciamo la prima volta, si corre tutti su un'unica classifica, poi nel corso del tempo le categorie aumentano e in realtà fanno una divisione, classifica per ogni tipo. Certo. Però all'inizio era tutto, appunto, tutto un casino tutto insieme. Tutto uno, e il podio finale viene dominato dalle moto, quindi grandi, non dalle macchine grandi, come mi aspettavo io sinceramente, ma dalle moto. Detto questo, in realtà nel corso degli anni la gara è cambiata moltissimo, ha variato i tracciati, ha cambiato appunto il punto di partenza, quindi non parte più da Parigi, ha cambiato il punto d'arrivo, ha cambiato continente, quindi è sbarcata in Sud America per 11 edizioni. Ah. Adesso è tornata al di qua dell'Atlantico e si è svolta in Arabia Saudita. Pure. Diciamo che non è più la gara originale, ovviamente, perché non essendoci più no, Parigi. No, è ben lungi dall'essere la gara originale. Infatti, in realtà, è sempre stata caratterizzata, diciamo, come una delle gare più estreme fra i rally. Effettivamente, di incidenti ce ne sono stati parecchi e di morti anche diverse. Per cui nel corso degli anni ci sono state parecchie modifiche, principalmente per renderla un po' più sicura. Ok. Ora, ovviamente sono 41 anni, quindi sono successo un casino di cose, immaginate, oltretutto il contesto, quindi veramente un casino di cose. Io vado per highlights, come gli sportivi, mm-hmm, e vi racconto un po' di edizioni random. Ma riesci a farcelo con una voce un po' alla Bruno Puizzul? Ed ecco che Terzino passa al centro. Attenzione, l'Italia. Mentre mettiamo del rumore di deserto sotto. Non seguendo l'automobilismo, non so neanche che voce abbiano i cronisti di. Ci sta. Tantomeno della Parigi da capo. Potrei farvelo in un po' tipo una lingua bagatta totalmente sconosciuta a tutti e tre. Vai. Così. Va bene. In mariano. In maliano? No. Sì. Minchia. Così a caso. Easy. Vai. No, cioè, okay. Chiamiamo qualche interprete. Va bene, ok. Scusaci. Andiamo avanti. Allora, prima edizione della Parigi-Dakar abbiamo detto 1978, e già nella prima edizione abbiamo il primo lutto. Un motociclista perde la vita perdendo il controllo della moto mentre cercava di allacciare il casco. Evidentemente Si allacciava il casco mentre andava? Ma da fermo? E suppongo che andasse, cioè spero che non sia morto mentre, cioè non lo so. No, perché se l'ordine logico su Orlando, cioè, ammirami, tra l'altro. Supponiamo, no. Come, scusa? Ammirami! Ammirami, io lo so, io l'ho capito. Sì, probabilmente sì. L'ho usato con parsimonia anch'io con i miei amici, ma quando capita l'ammirami è fantastico. Fantastico. A cui si risponde mediocre con le mani giunte. Esatto. Mediocre. No, vabbè, può capitare di partire con il casco slacciato in realtà, e se magari ti accorgi a 180 in curva che lo devi allacciare, forse non lo devi fare proprio mentre vai. Però vabbè, dai, ci voleva il primo che battezzasse un po' tutto il strato. Iniziare il giro. Alla fine sono stati tipo 24. In totale in 41 anni o alla fine della prima edizione? No. Dai, avrei detto molto peggio. Avrei detto molto peggio. Se capite, uno esce la mattina per andare a farsi un viaggio di piacere, comunque alla fine si aveva una gara, però... Esattamente. Un giro in deserto e ci crepi, cioè... come la gente che muore in crociera. Tutto rispetto per quelli che sono morti perché questa crociera si è ribaltata, però lì c'era stato un leggero errorino di rotta. Quando sei su dei motori così, nel deserto, pericoloso. Non perdona. Pericoloso. E so- insomma sì, effettivamente insomma non sappiamo esattamente come stesse allacciandosi il casco, tant'è che non gli è andata altrettanto bene a MotoGP. Mediocre, allora, una mediocre tradizione mediocre. Stava suonando la chitarra elettrica e si è, esatto, si è cieco, fuggito. Con un mostro cieco che ruttava fiamme. Esattamente. Niente, allora, un'altra edizione che è diventata strafamosa, vado in ordine cronologico, è quella dell'82, sì, che diventa particolarmente famosa perché fra i partecipanti c'è anche un tale Mark Thatcher. Attenzione! Figlio di quella stronza di Margaret. Ma veramente? E non gli hanno sparato mai la figlia? No, però si perde nel Sahara. Ah. E la Lady di Ferro, in barba a qualsiasi regolamento, interviene personalmente e alla fine lo fa ritrovare da un Hercules 130 dell'aviazione militare algerina. Hai capito? Ma hai capito? Ha strisciato, capito, la carta sul conto Google. Ma d'altronde, Lorenzo, devi sapere che non conta la società, contano solo gli individui, solo suo figlio. Esatto. Ci sta. Esattamente. Ci sta. Esattamente. Come dico, porco. È incredibile, incredibile. Cioè, a te ti crepavi dopo due giorni, morto male. Un motivo sempre in più per odiare la Thatcher, è incredibile, incredibile. Non so in inglese. Ti piace, ne archiveremo ancora. Esatto. Oggi abbiamo anche la Parigi-Dakar. Esatto. Oggi, esatto. Allora, nel 1986 il nostro amico Thierry Sabine, di qui sopra, quello che aveva ideato il rally, sta sorvolando appunto la gara sul suo elicottero in una tappa in Mali, quando viene sorpreso da una tempesta di sabbia e si schianta morendo male insieme ad altri cinque che erano con lui sull'elicottero. Vabbè, insomma, insomma anche lì va così una vita così, insomma, diciamo passata, che comunque ha vissuto abbastanza hardcore. Ma scusa, allora, quindi... E la morte di questo individuo ha fatto sì che ci fossero delle modifiche in qualcosa o no nel senso che è una tempesta di sabbia di uno dell'elicottero, quindi diciamo non il fatto che lui sia morto così fosse successo diversamente, probabilmente sì, tant'è che nel 92 effettivamente abbiamo la prima modifica del tracciato e siccome la Parigi-Dakar era abbastanza pericolosa, gli organizzatori si chiedono come modificarla e decidono che è una buona idea farla arrivare fino a Città del Capo, in Sudafrica. È un'ottima idea, tant'è che nel 93, l'anno dopo, decidono che tutto sommato non è così una buona idea e quindi tornano alla edizione originale. Ci sono rimasti un po' di sale. Cioè, Lorenzo, hai capito che Dakar è tipo in Senegal, quindi a metà dell'Africa, e hanno spostato l'arrivo tipo in fondo all'Africa, che sarà 10.000 km più giù? Ma infatti, da quello che mi ricordavo, dura un'eternità. Allora, sì, dura una dozzina, tuttora dura una dozzina di giorni. Madonna. In realtà, appunto, a partire da quell'anno, diciamo nel 93 torna quello originale, torna effettivamente fra Parigi e Dakar, però a partire da quell'anno poi inizia a modificarsi con costanza il tracciato e la partenza, diciamo, migra un pezzettino alla volta verso la Spagna e il Portogallo, dove poi le ultime edizioni partiranno da lì, diciamo le ultime edizioni in Europa partiranno da lì. Un'altra edizione abbastanza piuttosto storica è quella del 2008, che in realtà è una non edizione. Una nuova edizione? Una non edizione, nel senso che nel 24 dicembre del 2007 in Mauritania vengono uccisi 4 turisti francesi e chi si rivendica questo, diciamo, questo attentato è Al-Qaeda. Ah. Noi dicevamo che sono una dozzina di giorni, diciamo fra una dozzina e una ventina di giorni, nei primi giorni di gennaio. Ok. Per esempio quest'ultimo è partito il 5 di gennaio, quindi effettivamente il 24 di dicembre era abbastanza sotto con la data e quindi il governo francese chiede agli organizzatori di cancellare la data, la gara, quindi l'edizione totalmente. Anche perché in realtà la Mauritania, che è il posto dove sono stati uccisi, avrebbe dovuto ospitare tipo 8 prove. Ok, okay. Abbastanza massive, abbastanza peso. Però? E in realtà, no, effettivamente quella non andrà, non verrà svolta, quindi quella successiva verrà fatta nel 2009. In realtà non era la prima volta, ecco questa è un'altra roba, mentre questa la sapevo perché era abbastanza famosa, non era la prima volta che l'organizzazione doveva fare i conti un po' con le situazioni politiche dei paesi attraversati, ed effettivamente alcuni casi un po' meno famosi o semplicemente un po' meno recenti hanno visto delle altre situazioni abbastanza hardcore che essendosi verificate durante la gara non hanno interrotto l'edizione. Né in particolare nel 91 un concorrente era morto in Mali ucciso da un proiettile vagante. Che vagava per caso, cioè vagava per sbaglio cercando un oggetto ogni tanto, esatto. No, che la questione è che questi oggetti, cioè fai una gara automobilistica, sono delle macchine che vanno anche belle veloci, delle moto che vanno belle veloci, e quindi un proiettile vagante per sbaglio ha preso proprio questa macchina che viaggiava anche a una velocità abbastanza sostenuta. Guarda un po' che sfiga ogni tanto, è incredibile. Devo dire la verità, gli anni dopo è andata molto più diretta al sodo, perché nel 98 i predoni del deserto hanno sequestrato due camion e hanno sparato raffiche di Kalashnikov sugli altri piloti in corsa, quindi effettivamente in quel caso era abbastanza rivendicato. A noi ci piace chi si rivendica la terra, chi caccia gli individui che la difende a colpi di Kalashnikov. Esatto, quindi ci immaginiamo già le scene. Esattamente. In realtà l'altra cosa che è successa è stata più casuale, per quanto di casuale non ci sia un bel niente, nel senso che nel 2003 un camion dell'assistenza, però quindi non diciamo gara, di concorrenti, è passato su una mina posta nel confine tra la Libia e l'Egitto ed è detonato proprio. Beh. E quindi in quel caso non è casuale, perché la mina ce l'ha messa qualcuno, ma diciamo che non c'era qualcuno che... Non era Carrero Blanco, diciamo. Certo. Mannaggia, esatto. Però tu stai facendo un gioco, giocando su dei territori che portano con sé. È un gioco. Sì, tendenzialmente, tra l'altro, ovviamente, ognuna di queste cose è fatta principalmente da borghesotti europei, ovviamente. Volevo proprio arrivare lì, esatto. Esatto. Proprio lì. E tra l'altro chissà che alla fine nessuna di queste edizioni è stata interrotta, a differenza di quella del 2008. Che è quella in cui, diciamo, non è successo niente fisicamente all'interno della gara, ma sì, è successo subito prima, e quindi l'edizione del 2008 non si fa, e a partire dal 2009 in realtà, e fino all'anno scorso, quindi fino al 2019, la Parigi-Dakar si svolge in Sud America. Ok, quindi proprio trasferiamo. La cosa curiosa è che nel 2009, che è la prima edizione fuori dal continente africano, vince per la prima volta un africano. Giusto! grande. Incredibile, un sudafricano per la precisione. Quindi la cosa incredibile è che appunto, delocalizzati, così hanno deciso di vincere delocalizzati. Ma io ho due domande, la prima è retorica. Nel 2020, quindi no, quest'ultima edizione, e per i prossimi 5 anni si è rispostata al di qua dell'Atlantico, sì, si è spostata in Arabia Saudita. E adesso le categorie sono, ma in realtà dal 2009, sono auto, in ordine di zarraggine, auto, moto, camion, quad e side by side, che sono quei macchinizi con le mega sospensioni, i doing doing, cioè? Non so se avete presente. No. Con quella sorta di, che sembra una griglia metallica intorno, da due, un biposto. Mm-hmm. Beh, scusami, ripeti il nome, così mettiamo alla ricerca il nostro pro De Lorenzo, che così facciamo vedere side radio. By side lo pubblichiamo dalla pagina Facebook della radio, per cortesia. Side by side, ma non è una canzone, ma no, è un oggetto. No, è un oggetto di ricerca. Ah, Santa Maria, metti su immagini. Sì, vabbè, una di quelle cose che potenzialmente sono, ma a noi vengono fuori dei frigoriferi. Solo frigoriferi, eccolo qua, il side by side. Trovati. Lo vuoi tamarro, azzurro, blu oppure del contadino? Io lo voglio quello del contadino, naturalmente. Però sono veramente dei veicoli inutili. Sono proprio dei veicoli inutili per fare una Parigi-Dakar, che non è più né a Parigi né a Dakar, ma è in Arabia Saudita. Esatto. Quindi mandiamo questo. Beh, prima era Valparaíso, però, in compenso, quindi ancora certo, più lontano. Ma comunque l'altra considerazione che mi è venuta in mente quando ci hai parlato prima del camion che è decollato sopra una mina, e che mi fa molto ridere, se magari su quella mina c'è scritto Made in France, dato che i paesi europei hanno quella brutta abitudine di esportare nei paesi dell'Africa soprattutto armi, chissà che magari quella roba lì non gli sia stata venduta dai francesi. Chi può dirlo? No, non escludo che sia così. Ma a questo punto, secondo me, potremmo passare ad altre domande su cui sicuramente sei preparata, ovvero: ma la Parigi-Dakar risponde a che a quale problema mentale della società francese? No, cioè, gettata giù come battuta, ma chiara già la risposta. Cioè, evidentemente era il punto di sfogo della passione dei francesi per i motori, per il rally. Ah, guarda, io hardcore, ho scoperto però, nel corso di queste ricerche, che ce ne sono un sacco e sono pazzissime anche storicamente. Uh-huh. E una, l'unica che mi sono segnata, perché poi le altre sono andate nel, nel blob della mia totale del mio oblio totale, per cui non riesco a tenermi le cose in mente più di 7 secondi, ma l'unica che mi sono segnata, quindi è quella che vi cito, è che c'era una Pechino-Parigi, sì, di 15.000 chilometri. Sì, ma è famosa la... come si chiama? Okay. Immortale si chiama forse la gara, no? C'è una gara, ma tu sai di che anno è? Del 1900 qualcosa. Del 1907. Sì, ma è famosa, l'aveva vinta. Oh, male, 15.000 chilometri. Sì. Sì, ha un nome particolare. Beh, come gara. Cosa... Ma l'aveva vinta anche una coppia di italiani, ma tipo nel 1910, una delle primissime edizioni, aveva vinto degli italiani, tanto è vero che l'avevano fatta quando c'è stato il centenario. Avevano rifatto la stessa strada con lo stesso veicolo, cioè hanno fatto una copia e hanno fatto la stessa strada con lo stesso veicolo, ci hanno messo un mese e mezzo, no? Quindi penso che la risposta sia la stessa più o meno. Uh-huh. Alla tua domanda, la risposta è sempre mai la noia dell'Occidente. Esatto. In quanti modi diversi si può espletare. Certo. Sì, comunque sì, tra l'altro vi posso anche raccontare come funziona questa cosa, perché ovviamente io dicevo ok, cioè la macchina, ok, il deserto, ok, okay. Ma cioè immagino se dividi, non è che in giro ci sono 4.000 miliardi di cose, quindi se un tracciato diciamo automobilistico base immagino quali siano le complessità, lì mi chiedevo quanto al di là del motore, dell'equipaggiamento, ci fosse della, diciamo, della difficoltà, no? Uh-huh. E ho scoperto come funziona, cioè? il regolamento. Cioè, praticamente, subito prima delle partenze, sì, adesso almeno, quantomeno, perché immagino che il GPS fornito nel 79 non fosse esattamente identico, esatto, a quello del 2020, però adesso quantomeno funziona che prima della partenza gli equipaggi viene fornito un roadbook che ha il percorso completo della gara, viene fornito il supporto cartaceo, okay, e uno speciale GPS fornito dagli organizzatori, non modificabile, quindi tu hai solo questo. Fino al momento della tappa stessa la mappatura è sconosciuta a tutti, quindi qualsiasi sopralluogo, studio esterno viene punito con la squalifica immediata. Ah. Ok, quindi tu non puoi sapere quindi cosa praticamente avrai. Quindi tu hai sostanzialmente un GPS, delle cartine e le scopri il giorno stesso, quindi non puoi farti tutti i tuoi ragionamenti su che cosa debba essere montato, quale sia la strada migliore da fare, eccetera, eccetera, e quindi effettivamente parte della complessità che per esempio nei tracciati invece di turismo o di addirittura di GP, ovviamente, che quindi viene tutto studiato precedentemente a lungo, certo, quindi quali curve bisogna fare, quali sì, certo, sì, effettivamente in questo caso dietro le curve a volte, no, che poi c'è appunto quella scenetta per cui c'è il navigatore che dice terza, stringe, seconda, perché avendo già fatto il tracciato dà tutte le indicazioni al pilota che deve soltanto agire quello che il navigatore gli dice. Invece la Dakar non è così, cioè il navigatore non lo sa cosa deve fare prima del giorno. E quindi puoi essere, banalmente, puoi essere quel simpaticone di Mark Thatcher e sbabbionare in mezzo a Sahara. Vabbè, arriverà un C-130 a prenderti. Però a livello di ragionamento mi viene da pensare che, dato il fatto che mi metto nella testa di un pilota, magari anche esperto, qualcuno che comunque ci crede, che non puoi programmarti assolutamente niente della strada che andrai a fare, mi viene da pensare che sì, prima vincevano le moto e poi ovviamente le hanno divise, perché la moto è il mezzo che bene o male può raggirare tantissime situazioni limite. Una strada magari con tanta acqua, una moto la eviti, fai un altro giro, passi per strade più strette, eccetera. Ma che luoghi si vanno a incontrare in questa strada qua? Foreste pluviali non tantissime. Certo, certo, esatto. Quindi praticamente è sopravvivenza. È parte della sopravvivenza. Tra l'altro un'altra cosa random che vi posso raccontare è che quest'anno il vincitore, e il suo secondo, se ben ricordo, e uno del suo team hanno preso il Covid. Quasi sicuramente. Quasi sicuramente, perché ovviamente non erano ancora... Insomma, stiamo parlando del 20 di... Ah, perché erano in gara mentre esplosa, erano in gara mentre esplosa la, la diciamo che le hanno perse per un, cioè, diciamo, sono partiti poco prima che partisse tutto, tutto il pieno. Ma pensate. Però ovviamente ognuna di queste cose adesso, diciamo, la pandemia Covid ovviamente sta mettendo in discussione e anzi sta facendo balzare un sacco di gare all'aperto di rally, ovviamente. Ovvio, sì. Pensate. Ma scusa, diciamo ci dicevi prima del regolamento, ma quindi a questo punto viene dato questo GPS, loro non sanno cioè il tracciato fino al giorno prima, e poi vince chi arriva per primo? Come funziona? E poi praticamente sono tappe, sì, come nel ciclismo, e quindi viene stilata una classifica di tempi sommatoria. Okay. Ok, quanto ci metti da un punto all'altro e fai la somma di tutti? Sì, praticamente come il ciclismo, cioè non vanno a random per 24 su 24, se no gli esplode, esatto, tutto quanto, ma devono arrivare da un punto a un altro e man mano vengono stilate le classifiche tempi sommatorie. Grazie, finalmente, era ora. Prima lei. Ci mancherebbe. Ma per la gloria si fa? O c'è un monte premi strepitoso, una statuetta? No, strepitoso no, però c'è un monte premi ovviamente. Cachet, denaro, denaro cachet. E si paga lavora... per partecipare, si vero? Si dice borsa. Beh, come tutto, poi ci sono anche tutti gli sponsor, ci sono, insomma, ovviamente... Insomma, c'è gente che lavora di questa roba. Poi ci sono anche dei borghesotti che si annoiano, però insomma ci sono dei team di ingegneria... abbastanza massicci. Pensa te che storia. Ma quindi scusami invece, sempre guardando, sempre restando sull'argomento viscido, orrendo dei soldi, quanto costa tutto il giocattolino? Cioè quanta economia muove tutta questa noia da borghesi? Allora, non te lo so dire sinceramente. Questo non te poco. Lo so dire, anche perché penso che sia abbastanza complicato calcolare. Nel senso che bisognerebbe valutare appunto ognuna di queste cose, cioè quanto, che cosa stai contando, se stai contando solo le macchine, se stai contando le macchine, gli stipendi, gli sponsor. Esatto. Certo. Quindi diventa molto difficile. Poi c'è tutto il business mediatico, perché giornalisti, articoli, trasmessa. Quindi, insomma. Beh, è tutto molto bello. Io quando penso alla Parigi-Dakar mi viene in mente la Main 400, che è un'altra gara molto famosa che c'è nel Nevada, e a me risulta famosa perché è dove Hunter S. Thompson localizza Paure e Delirio a Las Vegas, che è uno dei suoi scritti più importanti, dove poi è uscito il film. La Main 400, che è molto simile a tante altre competizioni nel deserto, ovviamente con tutto lo sfondo del sogno americano, è una cosa che loro si sentono ma tantissimo. Proprio c'è tutto l'hype, perché poi sono eventi annuali, non è come magari altri tipi di sport che c'è il campionato che dura tutto l'anno e te lo guardi, è quell'evento quella volta l'anno che viene pompato mediaticamente per tutto l'anno, per poi arrivare lì quel giorno, quell'ora in cui ti riempi di sabbia per tutto il giorno e ti vedi sfrecciare motociclette, perché sono moto da cross la Might 400. Che storia, effettivamente. Sì. Sono belle cose, e io invece mi vedo sempre più soltanto una versione di Mad Max Fury Road, forse giusto proprio senza la gente che muore di cancro, ma per il resto, esatto, gente che si lancia sugli altri veicoli. Sì, veicoli, ma poi se pensi a quella veicoli del, con le motoseghe, degli anni, gente così morta. Era il set, quella abbiamo citato prima, con i camion, le moto e le macchine insieme. Ah, sì. Cioè, vai, immagino le moto che passano sotto i camion che tendono a schiacciare le macchine, tipo Extraction Derby 6. Va bene, ma ascolta, vabbè, a questo ma punto... comunque continuano a gareggiare insieme, hanno solo delle classifiche diverse. Certo, cioè praticamente tu ti puoi vedere quello che passa in moto di fianco, ma tu gareggi per i camion e ti frega soltanto dei camion. Ah, ma io avevo capito che fossero divise, proprio che tipo un giorno una, un giorno l'altra. Va, come sono tutte insieme. Certo, anche perché dopo 3 giorni di gara c'è chi è già più avanti, più indietro, magari c'è quello con la moto che sorpassa il camion o il contrario, chi lo sa. Certo. Anche perché comunque quelli con la moto, cioè, altra domanda proprio da peluccare. Ma cioè la gente con la moto cosa fa? Quando si ferma mette giù il materassino e dorme per terra con la moto? Come funziona? Tu hai una visione un po' romantica. Un po' romantica. Ok, diciamola così, cosa. Romantica. Cioè, quando i ciclisti finiscono la loro tappa, sì, non si appoggiano abbracciati alla bici. Ma no, nell'albergo 5 stelle con gli schiavi. Ma no, hanno la tenda 02 nel taschino della tuta. Dai, la tirano fuori, l'aprono, si mettono lì a dormire. L'immagine del ciclista che si abbraccia alla bicicletta e legano la bicicletta, perché se io il giorno che vedo uno del Giro d'Italia che appoggia la bicicletta, raga, gliela rubo. E sono sicuro che anche Iaffi ha sorriso, lo farebbe anche lui. Paracadute. Sì, perché mi ricordo di Jerry. Come, scusa, Chiara? No, dico, tra l'altro, cioè, vanno in giro con la 2 seconds legata dietro come uno zaino. E se non la legano bene, gli fa effetto paracadute. Esatto. E si E rallentano bene. Praticamente così. Esatto. Sì, metà della competizione la fa... quanto sei bravo a ripiegare in fretta la 2 seconds la mattina, tra l'altro, se no ti fregano, rientra nelle tempistiche, c'è, cioè, quanto ci metti a ripiegare la 2 seconds, se no ti fregano il posto alla partenza e parti dietro al gruppo, poi è una sorta di biathlon del rally. Esatto. Vabbè, quindi semplicemente c'è un gruppo che li segue e alla notte li raggiunge e montano il campo base, li sì, farà quelli che non campo. Saltano sulle mine anti-uomo messe precedentemente dagli europei e che non gli sparano quelli di Al-Qaeda. Va bene. Va bene, allora Chiara, noi direi che la nostra pillola abbiamo finita, ti ringraziamo. È stata veramente, veramente fica. Ci hai arricchito anche oggi di cose interessanti e di morti ammazzati male, c'è sempre dei morti ammazzati male, alla fine, molti temi. No, che non parlo. È vero. No, non sempre, vero. Non sempre. Spesso. Va bene, noi abbiamo già una canzone in pole position, vediamo se è anche la tua scelta. Dici che no, canzone allora, ci vuoi mettere. Io mi impongo con questa tracciona prepotente. Vai. Essendo che stavamo parlando del rally, ma intanto avete la connessione? Si possono prendere queste cose? Sì, fatto una... Allora dovresti cercare una traccia che si chiama DKR. DKR? Buba. Di Buba. Esattamente, non il video originale. Bravissima, che perché stavo già cliccando il video, solo l'audio. Esatto, ma quello con la copertina del disco. Presa. Nel senso che, allora, intanto è bellissimo, mi piace moltissimo. Buba è un rapper francese che ha origini senegalesi e mezzo algerine. Già a me piace. Già mi hai comprato. Ed è uno, diciamo, del giro afro trap. Wow, e quindi che effettivamente storia. Il beat è fatto con la cora, che è lo strumento a corde tradizionale. No, diciamo, Chiara, sei fighissimo. Ma in realtà adesso ovviamente la traccia, mettete quella del disco, che l'intro è impegnativa, sì. Ma guardatevi il video, perché è di una, come dire, contemporaneamente molto bucolico e tamarrissimo. Uh-huh. Lui non è proprio un finetto, ma cioè, mi sembrava un ragazzo diseducato, è prepotente, ma è veramente ma cos'è la coppia? Come sapete, io aspetto. Lui è la coppia veramente africana di Stormzy, mi sembra, il rapper londinese, ovviamente sì? Di origine africana. Stormzy, lo conosci? Quello di Vossi Bop? Sì, beh, no, lui credo che sia. No, cioè, sicuramente non sono dello stesso originari dello stesso, ma ce ne sono un sacco. Io sono una grande amante dell'afrotrap, in realtà. Uh-huh. In Francia c'è un grosso, c'è stata una grossa ripresa, diciamo, musicale da parte del meticciato francese, diciamo del Maghreb e africano in generale, di tutta una serie di sonorità e ritmiche, diciamo, delle terre di origine. Mm-hmm. Con un'applicazione di tamarria prepotente sopra, che ovviamente già. Io apprezzo molto. Già. Va bene, allora la traccia noi ce l'abbiamo. È caricata. Grazie Chiara. Grazie mille Chiara, davvero. Ciao cari. Settimana prossima. Settimana prossima, Chiara. C'è questa cosa pazzesca che facciamo una diretta lunghissima il 1° maggio, che cade di venerdì. E Zona Rossa andrà in onda. Allora Lorenzo, Chiara è una persona diligente, una compagna onesta e rispettabile, legge i report, quindi lo sa già. No, ma soprattutto stavo ascoltando quando parlavate con Andrea, e quindi in realtà ero già sul pezzo. Tac. Sei con noi? Ovviamente sì. Ma guarda, adesso non vorrei duplicare quella pubblicità bruttissima di Fiorello che voi non avete la possibilità di vedere perché no. Voi non avete la televisione, ma ovviamente non avrò molto da fare se non stare a casa, quindi per disperazione Chiara Buzzacchi sarà con noi. Grazie Fiorello. La prima puntata, la puntata del 1° maggio sta diventando sempre più fantastica, una zona rossa mannara, proprio ululante al sole di mezzogiorno. Ci cacceranno via. Speriamo. Grazie Chiara. Speriamo, esatto. Grazie Buba, ciao, è arrivato tutto per voi. Ciao, buon Chiara, stacci ciao. Bene. Ciao. Qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. T'as un gribord de bombardier. Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Comme autre, tu mets au chien médaillé. Bah, mon nom, ce négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. T'as à l'âge, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'argent. Ils veulent te mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Oh mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis devant un plat de thieboudienne. Même noir, je pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez-là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Sers-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert de pion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler. Madame la juge est lente de rage. Trahi comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler. Passe-moi les masses à Mamakosa, FL, Omar, Salvatrocha. Négro n'a pas vraiment de shot. Le boule est plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardier, je vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré, elle a gâté le haut. Première roue arrière et des mers, j'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer, je peux te montrer les crocs. Mi ricordavo anche il tasto giusto. L'hai premuto giusto? Assolutamente sì. Ah, quindi, ah, ok. Hai visto? Va bene, siamo arrivati quasi alla fine del nostro, della nostra puntata pazzissima. Esatto, è stata una puntata veramente fuori tipo, di testa. Secondo me proprio l'esempio del puzzle è perfetto. Quando sì. Tiri fuori un puzzle dopo 3 anni e dici adesso lo faccio e non puoi farlo. Secondo me, cioè, l'esempio ci sta. Hai ma perso sicuramente dei pezzi. Ma la questione non è che hai perso dei pezzi. Secondo me è come quel puzzle che hai trovato dopo 3 anni, ma che l'avevi lasciato fatto, okay. Ma l'avevi fatto mentre eri fatto. Quindi ti trovi questo guazzabuglio senza senso, seduto insieme con lo scotch. Ma allora, ma questa canzone, non l'altra canzone. Quale ma mettere l'altra? Questa canzone, mettiamo questa canzone. Perché pensavi un'altra? No, perché la questione è che tutto questo parlare di Mad Max Fury Road, furgoni che corrono nel deserto, mi aveva fatto venire voglia di mettere quella canzone là. Ah, che okay. È sempre di quel gruppo lì che ha fatto quella canzone lì. Sì, però sì, sì. Insomma, giusto, possiamo giusto lasciarci a dei gustosissimi, come si dice, spoiler, spoilerini. Diciamo che domani potrebbe succedere che ascolterete questa canzone. No, neanche. Devi cercare Mad Max Fury Road Prodigy. A questo punto possiamo dirlo così. Mi pare che si chiama The Day Is My Enemy. È la canzone corretta. Madonna. Inizia di brutto, quindi adesso scaricala per bene, mm-hmm, mettila lì, perché all'inizio spacca veramente di brutto. La questione è questa, che domani potrebbe uscire qualcosa con una canzone di questo stesso gruppo. Esatto. Basta. Basta, basta, basta. Ho fatto poche note, così magari qualcuno ha già capito, ma state incollati. Cantare, è incredibile. State è incredibile. Incollatissimi ai profili Facebook del collettivo Zama, la pagina Instagram tenuta dal Buon Cigo, la pagina delle nostre altre cose, quindi Polisportiva, West Climbing Bank, tutti i profili, la radio naturalmente, Radio ZM, tutti i profili del mondo, perché domani arriverà un video super chicca per celebrare quello che facciamo tutti i giorni. Ma adesso, in chiusura di Zona Rossa 22 aprile, ancora auguri a Giulia alias compagno Roberto. Ciao Robby. Ci sono i nostri amici prodigi, The Day Is My Enemy. Mettila a cannone proprio. Sparo al massimo.